della mia relazione, mi pare che sia chiaramente indicato dal titolo. Cioè, in pratica, io cercherò di fornire un quadro organico, se possibile, delle esperienze cattoliche compiute dai cattolici italiani in campo economico-sociale tra il 70 e il 1914. Ecco, devo solo, come dire così, sottolineare, ricordare in premessa che il periodo, dal punto di vista della storiografia economica, cioè dal modo di considerare e di ricostruire, che è proprio della mia specializzazione, no, non può non considerare questo trentennio un periodo breve. Un periodo breve per cercare di capire in pratica in che cosa sono consistite queste esperienze e soprattutto che ruolo, che effetti hanno avuto nel generale contesto economico e sociale italiano. È un periodo breve e tra l'altro dal punto di vista strettamente economico si apre con una grande crisi, no? La crisi agraria degli anni, dal finire degli anni 70, degli anni 80, è economicamente un periodo travagliato, si chiude con un'altra crisi, se non propriamente economica, economico-politica, cioè tra l'11 e il 14, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. I limiti della ricostruzione, li premetto subito, io cercherò di considerare soprattutto i fenomeni, come dire, organizzativi, le strutture del movimento cattolico in questo campo e tralascio necessariamente sia il travaglio di carattere dottrinario, le discussioni che sono state fatte sui fini, gli scopi, le caratteristiche di queste esperienze, sia soprattutto le connessioni tra queste esperienze e il generale movimento cattolico italiano. D'altra parte, in tutti questi giorni, con ben maggior competenza di quanto potessi fare io, tutte queste cose sono state già richiamate, analizzate e valutate. Lo schema che seguirò, in pratica quattro punti, un'analisi di queste strutture al momento della maggiore maturità, cioè intorno al 10, tra il 10 e l'11, quando è possibile farsi un'idea complessiva di queste organizzazioni. Un secondo punto tenterò, con molte difficoltà, come farò capire poi, un confronto tra queste esperienze e le generali esperienze economiche e sociali dello stesso tipo, voglio dire il peso specifico delle casse rurali cattoliche nelle esperienze delle casse rurali italiane, delle leghe di resistenza cattoliche, nelle leghe di resistenza di tutto il paese, perché dal mio punto di vista questo è un criterio di valutazione molto, molto importante. Un terzo punto sarà dedicato alle ragioni, ricercate naturalmente nelle vicende sia sociali che economiche italiane, le ragioni del nascere, dello svilupparsi di queste organizzazioni cattoliche. E poi concluderò con un punto dedicato ai problemi di ricerca che io considero del tutto aperti ancora in questa specifica direzione. Ecco, cominciando col primo punto, cioè con l'analisi delle esperienze in campo economico-sociale, ripeto, nel periodo di maggiore maturità da esse raggiunte. Ecco, devo qui far presente che in pratica mi ricollego a quel brevissimo intervento che ho fatto qualche giorno fa, che contrariamente a quanto è stato possibile per i colleghi che mi hanno preceduto, io non posso fare riferimento a un corpo organico di conoscenze, voglio dire ad una produzione storiografica che mi aiuti nel tentare questa ricostruzione di un quadro organico delle esperienze cattoliche in campo economico-sociale. E questo per una ragione che oramai è chiarissima, ma che era certamente già chiara a tutti quelli che si sono interessati di questi problemi. La ragione è che la storiografia italiana relativa al movimento cattolico degli ultimi 30 anni si è dedicata prevalentemente agli aspetti, come dire, ideologici, politici del movimento cattolico, più che non agli aspetti economico-sociali. Naturalmente questo non vuol dire, io nell'intervento ho così volutamente, forse un po' polemicamente, calcato le tinte, qui non si tratta di vuoti in senso assoluto. Ci sono ci sono ricerche, sono in corso e sono state pubblicate ricerche, monografie su aspetti e momenti del movimento sociale cattolico in Italia, ma non possiamo veramente dire che queste ricerche, queste monografie, questi studi consentono di avere quello che io ritengo a questo punto sia, accogliendo anche l'invito che è stato fatto da Rossi in quello studio citatissimo, in quel lavoro citatissimo su studi storici, ritengo veramente che questo sia invece un aspetto da scavare, un aspetto da approfondire e con tutte le implicazioni che esso può avere. Vorrei far presente se sia ai colleghi italiani come agli amici tedeschi che hanno seguito questi nostri problemi, queste nostre riflessioni, vorrei far presente che secondo me quello che manca soprattutto e che spiega in parte così questa produzione per momenti e per aspetti non sufficientemente organica, vorrei far presente che quello che veramente manca a sostegno della ricerca in questa direzione è un quadro organico relativo alla storia del movimento economico in senso stretto italiano tra il decennio 80 e la prima guerra mondiale. Il fatto che esistano e siano citabili, come ha fatto il collega Traniello, delle sintesi, vuol dire che ovviamente gli storici hanno colto, no, l'importanza di possedere almeno uno sfondo generale per le ricostruzioni delle vicende non economiche ma politiche, civili generali. Però dal mio punto specifico io devo far presente che questa possibilità di riferimento ad una ricostruzione del movimento economico e sociale italiano per le sue grandezze fondamentali, la storia della popolazione per esempio, no? Con gli andamenti fondamentali di mortalità, di natalità, di andamenti complessivi della popolazione italiana, la storia di alcune strutture fondamentali, l'impresa industriale, ma soprattutto della struttura produttiva agricola, la storia dei consumi, la storia delle condizioni di vita, per questo periodo è fortemente carente. E soprattutto è fortemente carente in una prospettiva che mi sembra essenziale, insomma, e che va richiamata perché è fonte di un cumulo di difficoltà nella ricerca stessa. Quello che non è sufficientemente ricostruito è la diversificazione regionale, la profonda diversificazione regionale, dico regionale ma non con riferimento alle regioni amministrative, con riferimento al mosaico di realtà economiche e sociali che entrano nella più generale e tutto sommato astratta realtà unitaria italiana. Cioè, noi abbiamo ricerche, studi su singoli aspetti, su singoli momenti e anche su singoli ambienti ovviamente, ma ci manca una storia economica d'Italia per questo periodo. Devo dire subito che il lodevole tentativo fatto con la storia d'Italia di Einaudi col recente volume pubblicato da Castronovo non risponde a questo obiettivo. Non risponde a questo obiettivo perché tenta un'ennesima sintesi che non ha dietro alle spalle un numero sufficiente di approfondimenti di natura regionale, no? di analisi locali, di cui questa possa essere poi un tentativo così di sintesi e di sintesi organica. E questo è importante ed è grave. Cioè, è grave che manchi questo tipo di ricostruzione sui singoli ambienti. Perché loro mi devono perdonare, ma io di fronte a certe generalizzazioni, il collega Scopola l'altro giorno citava lo statuto della Lega e a un certo momento ha parlato dei salariati come dire forze che avrebbero dovuto entrare. Probabilmente per ciascuno di loro questo era un sufficiente richiamo ad una certa realtà, i salariati. Per chi ha un minimo di conoscenza delle reali situazioni economiche e sociali d'Italia in questo periodo, il termine salariato richiama realtà tremendamente diverse fra di loro, al punto da poter dire che tra il salariato della Valle Padana e il salariato del Tavoliere delle Puglie non esiste praticamente se non una cosa in comune, il nome, ma non la sostanza delle condizioni di vita, non la sostanza dei problemi economici e sociali. Così i termini che noi usiamo, mezzadria, colonia, per dire i mezzadri, per dire i coloni, per dire i soggetti gli uomini che di queste cose sono stati i protagonisti, e noi facciamo richiami attraverso generalizzazioni che possono servire, devono servire naturalmente per lo scambio delle idee, ma non riescono a rappresentare la realtà, perché questa realtà è, da un punto di vista della ricostruzione economica ed economico-sociale, una realtà profondamente differenziata, no? una realtà frantumata che conosciamo solo in parte. Quindi dovrei anche aggiungere necessariamente, a questo punto, visto che se ne è fatto un gran parlare qui, che io di fronte all'invito di Rossi di riscrivere la storia del movimento cattolico con riferimento alle vicende economiche e sociali italiane, sono consenziente. Sono consenziente al punto di ritenere che quell'invito coglie il vero problema. Il vero problema è che la comprensione di gran parte delle vicende del movimento cattolico è possibile in quanto siano note le vicende e le caratteristiche dell'evoluzione sociale ed economica italiana nello stesso periodo, tra l'80 e il 1914. E quindi quell'invito va accolto e la sfida, perché in effetti è una sfida, va raccolta su quel piano. Le osservazioni che sono state fatte sono certamente tutte importanti ed interessanti, però secondo me aggirano il problema, perché dire per esempio che in quella ricostruzione si appiattisce la pluralità delle esperienze del movimento cattolico ha certamente un grande significato dal punto di vista della storia politica e della storia civile. Beh, però in pratica non è un rispondere all'appello che viene fatto da Rossi, all'invito, al progetto che viene sottoposto, perché quel progetto, quell'invito è di una ricostruzione che ricolleghi il movimento cattolico, l'azione dei cattolici al contesto generale, economico e sociale italiano, che noi non conosciamo sufficientemente. Quindi è una proposta, ripeto, che dobbiamo raccogliere approfondendo le nostre ricerche con tutte come dire, le difficoltà, insomma, che dirò più avanti in questa direzione. Ecco, premesso questo, è chiaro che su questo primo punto che devo trattare, struttura, consistenza, io devo rifarmi non alla letteratura, solo parzialmente alla letteratura prodotta, ma devo rifarmi così ad alcune fonti statistiche, per fortuna non scarse per il periodo 1900-1914, sufficientemente attendibili, cioè le rilevazioni ufficiali dell'Ufficio del Lavoro costituito presso il Ministero di Agricoltura e Commercio, e che dal 1904 al 1914 ha veramente prodotto in questa direzione rilevazioni, ricerche che oggi costituiscono una fonte importante in questa prospettiva. Ora, in pratica richiamo soltanto una tabella generale, perché non voglio certo tediare con numeri e dati statistici, però in pratica parti poter dire che negli anni, come dicevo prima, di maggior maturità e completezza di questo movimento cattolico in campo economico, la situazione fosse questa, cioè la presenza intanto di istituzioni economiche in tutti i campi e secondo la tipologia, come dire, diffusa, no? In ambienti come il nostro. Cioè i cattolici avevano dato luogo sia a istituzioni economiche di tipo mutualistico, sia ad istituzioni economiche di tipo cooperativo, sia ad istituzioni economiche di tipo creditizio e, cronologicamente, per ultime, ad istituzioni economiche di tipo rivendicativo, come si diceva, cioè sindacali, in senso stretto. Quindi c'è tutta la gamma delle istituzioni economiche operanti anche nell'ambiente sotto altro segno politico e ideologico, con una consistenza che, se le cifre possono dire qualche cosa, la rilevazione pubblicata nell'11 dal Ministero di Agricoltura e Commercio dava 3.000 istituzioni rilevate, cioè 3.000 entità, no, organizzative autonome, con un totale di 346.000 soci o iscritti, è compreso tutto qui dentro, eh? Sono compresi sia i soci delle leghe del lavoro come i soci delle casse rurali, 346.864 per la precisione, e con la scarsa precisione che di solito hanno queste cose, insomma, quindi nell'ordine delle 350.000 unità, insomma. Tengono presente che questi sono dati per difetto, perché le inchieste fatte, le rilevazioni, non riuscivano mai a raggiungere l'universo, no, delle esperienze, ne coglievano però la gran parte, quindi grosso modo, se non 350, si può arrivare forse alle 400.000 unità, ma è un'ipotesi, insomma, siamo in quest'ordine. In quest'ordine trovate perché c'erano dei soci dormenti, come si sveglia. Beh, questo è un altro problema, certamente, questo è un altro problema. Cioè il problema dell'effettivo comportamento poi sociale, però in termini quantitativi questa era la rilevanza. Mi permetto di dire al professore che probabilmente c'erano soci dormenti anche dappertutto, ecco, quindi si compensavano, insomma, infatti. Quindi questo sembra, ripeto, essere complessivamente la situazione. Naturalmente dietro a questi dati c'è una realtà molto articolata. Per esempio, considerando l'insieme delle istituzioni, quelle che sembrano avere un maggior peso quantitativo sono essere le società di mutuo soccorso, cioè il fenomeno più diffuso è quello del mutualismo, cui fa seguito quello della cooperazione di credito e poi la cooperazione in senso generale. Il fenomeno meno rilevante quantitativamente è quello rappresentato dai sindacati, dalle leghe cattoliche, sia nei settori industriali come nel settore agricolo. Un'altra caratteristica di questa struttura è la sua localizzazione, che non è uniforme nella penisola. In pratica, queste istituzioni sono presenti nel Veneto, in Lombardia, Piemonte, Liguria, parte della Toscana e delle Marche e in Sicilia, no? Qualcosa spassa lungo la penisola, ma le zone di localizzazione in senso stretto sembrano ridursi a questo. Un'altra caratteristica è la predominanza di istituzioni economiche operanti nell'ambiente agricolo rispetto a quelle operanti nell'ambiente urbano, industriale. Cioè è una presenza che per esempio è fortissima per le casse rurali, per la cooperazione di credito e in genere per strutture come le affittanze collettive, che sono tipiche strutture associative tra lavoratori della terra, sono cooperative di consumo, sono cooperative agricole, non so, per l'acquisto di sementi, per l'acquisto di macchinari, per la vendita ed acquisto di prodotti. Quindi c'è una predominanza netta, no, nell'ambiente agricolo di queste regioni che ho citato rispetto alle esperienze invece nell'ambiente industriale. E bisogna dire però che questo piccolo mondo di organizzazioni, piccolo come dirò più avanti rispetto all'universo, cioè all'esperienza italiana, si presenta a questa data come fortemente organizzato e associato. Cooperative, casse rurali, banche, leghe non operano separatamente, ma laddove sono presenti localmente si collegano strettamente tra di loro. Il caso classico è quello di alcune zone dell'agricoltura asciutta lombarda, dell'alto milanese, per esempio dell'alta Lombardia, dove la costituzione di una cassa rurale si ricollegava frequentemente alla costituzione di una banca che collegava, anche sul piano finanziario ovviamente, le casse rurali stesse. Un collegamento poi tra le casse rurali e le affittanze. L'affittanza collettiva esisteva in quanto aveva alle spalle una cassa rurale che la sosteneva dal punto di vista finanziario, e il collegamento poi tra casse rurali e cooperative e poi movimento di resistenza. Devo dire tra parentesi, ed è solo un richiamo, che d'altra parte questa è un'esperienza che anche in campo socialista si fa, un'esperienza cioè di stretto collegamento tra le istituzioni economiche. La cooperazione per i socialisti è stata in alcune zone il vero sostegno, per esempio, dell'azione sindacale, e questo è spiegabilissimo. 3 giorni di sciopero per chi percepiva bassi salari potevano essere, al di là delle possibilità, l'esistenza di una cooperativa di consumo che anticipasse i generi alimentari per un certo numero di giorni, poteva voler dire che c'è la possibilità di resistere, no? Dal punto di vista rivendicativo. Quindi c'è questa articolazione, ma c'è anche questo stretto collegamento tra esperienze che rispondono a finalità diverse. C'è poi da aggiungere che queste organizzazioni economiche cattoliche svolgono un'azione, ritorneremo poi su questo punto, svolgono un'azione che in sostanza è del tutto analoga a quella delle altre istituzioni che sotto lo stesso nome ma con altro segno politico appunto fanno operazioni di credito piuttosto che operazioni di consumo facilitato. È interessante a questo punto un'osservazione fatta durante la famosa settimana sociale di Assisi nel 1911, in cui vennero esaminati tutti gli aspetti dell'organizzazione professionale, quindi l'organizzazione sindacale cattolica. Cito qui a pagina 97, dai dati esposti, i dati sono praticamente gli stessi che ho citato io, risulta ancora che le organizzazioni di diverse tendenze, per quanto abbiano di mira finalità remote, attenzione, finalità remote, assai differenti, dal socialismo alla cristiana collaborazione delle classi, vanno svolgendo in fondo attualmente la stessa azione. Certe differenze dipendenti dalla diversità dei criteri generali non possono mancare. Il concetto socialista della lotta di classe per la distruzione del capitale condurrà ad una facilità talora eccessiva o ingiusta nell'attacco, fino allo sciopero per lo sciopero dei sindacalisti, intendendo qui gli anarco-sindacalisti, mentre l'organizzazione cattolica cercherà di valutare le rivendicazioni dei lavoratori in base a principi di giustizia fondati nello stesso diritto naturale, esigendo rispetto per gli interessi di tutte le classi, lottando per quelli lesi delle classi lavoratrici con metodi indicati dalla stessa giustizia. Ma spogliata dagli aspetti speciali per questi diversi criteri può assumere l'azione fondamentale necessaria dell'organizzazione, resta effettivamente la rappresentanza e la tutela degli interessi professionali dei lavoratori. Cioè, ma l'autore di queste riflessioni è il comitato direttore del... No, è uno dei relatori ad Assisi, e precisamente... Cattolico. Certamente, è Mario Chiri, quel Chiri che preparò per il Monte Martini l'inchiesta pubblicata nel 1911. È una riflessione, ma è una riflessione importante perché fa vedere che in pratica, nella concreta azione, non c'è distinzione nell'azione. Ecco, passerei a questo punto ad esaminare un secondo aspetto della questione, cioè un aspetto che la ricerca storica, almeno per quello che mi risulta, non ha ancora affrontato, e che invece è, secondo me, veramente molto rilevante. Cioè, dicevo già prima, noi abbiamo qui alcuni numeri, abbiamo qui alcune grandezze in termini statistici. Il vero problema però è un altro: che peso avevano queste organizzazioni? Che peso avevano dal punto di vista della loro significanza economica ed economica e sociale? Io ho tentato qui, dirò poi, di mettere giù qualche valutazione in termini quantitativi. In effetti a questa domanda c'è una risposta, una parziale risposta quantitativa. Quella che manca completamente è una risposta qualitativa, funzionale. Tanto per intenderci, è certamente utile sapere quante erano le casse rurali in un determinato momento, quante erano le casse rurali sotto segno cattolico, perché richiamantisi ad uno statuto in cui erano contenuti determinati principi, erano date alcune indicazioni rispetto alla finalità, però dal mio punto di vista, che può anche essere considerato un punto di vista limitato, quello che veramente conta è sapere e valutare come queste casse rurali hanno per esempio inciso rispetto alle finalità che erano loro proprie. Ora, una cassa rurale si costituiva in genere per facilitare il piccolo credito per operazioni di natura, come dire, connessa alla gestione del fondo. E il punto fondamentale è questo, del tutto non studiato e non affrontato. Nelle singole comunità, nei singoli ambienti, laddove le casse rurali operavano. Cito le casse rurali, potrei citare i forni per la cottura del pane, potrei citare le latterie sociali, potrei citare le affittanze collettive. In concreto, nella realtà economica locale, non hanno contribuito, per esempio, al miglioramento della gestione stessa e quindi, in ultima analisi, hanno contribuito a modificare il tessuto dell'attività economica. L'attività economica così come era essa svolta nelle sue rilevanze meramente produttive o anche nelle rilevanze di natura sociale e poi di natura politica. Devo dire subito, devo ripetere anzi, che una risposta a questo quesito non c'è nella letteratura, nella ricostruzione, perché è una ricostruzione difficile, non dico impossibile, ma difficile. Non è certo la lettura degli statuti, non è certo la lettura dei verbali, delle assemblee, non è certo l'esame degli aspetti istituzionali, formali, esterni di queste istituzioni che può permettere di capire fino a che punto hanno inciso nel tessuto sociale, nel tessuto economico, rispetto alle finalità che erano loro proprie, ovviamente, quelle per le quali erano costituite e suscitavano adesione nel mondo contadino, nella fattispecie. Ora, da un punto di vista quantitativo, io ho qui qualche dato, poi nella relazione scritta, tutte queste cose verranno offerte con maggior dovizia e spero anche maggior precisione. Per esempio, nel campo della mutualità, il peso specifico non sembra superare il 10%, il 10% sul totale delle società di mutuo soccorso operanti in Italia intorno al 1910-1911, il totale delle società di mutuo soccorso create, sotto segno politico diverso, in modo particolare le società di mutuo soccorso socialiste, quelle radicali, quelle chiamate dalla statistica ufficiale libere, per distinguerle da quelle socialiste. Su 926.000 soci registrati, faccio presente che a questa data operava già la legge dell'86 che riconosceva alle società di mutuo soccorso un contributo governativo e quindi la rilevazione è sufficientemente attendibile, perché le società di mutuo soccorso avevano interesse a far conoscere i propri dati. I soci delle società di mutuo soccorso cattoliche erano 92.000, diciamo sul 10%. Il capitale che circolava in queste società di mutuo soccorso indica una percentuale di partecipazione ancora più bassa, su 72 milioni era di 1.333.000. È una proporzione che si vede che indica anche il più modesto rilievo economico di queste società di mutuo soccorso. Ecco, nel campo delle cooperative non di credito, quindi di tutti gli altri tipi meno che quelle di credito, e qui siamo pure sugli stessi livelli, cioè in pratica su 5.000 cooperative registrate o comunque riconosciute, quelle cattoliche erano 578. Su 817.000 soci nell'insieme, 50.000 soci delle cooperative cattoliche. Ecco, laddove invece non posso fornire dati di confronto è per il fenomeno più interessante, cioè per le casse rurali, perché esistono rilevazioni abbastanza precise per quello che riguarda le casse rurali cattoliche, soprattutto in alcune regioni, mentre invece non sono disponibili dati relativi all'esperienza nell'insieme. Qui però bisogna dire che in certe regioni, nel Veneto certamente, in parte della Lombardia e del Piemonte, quel 10% è largamente superato. Cioè siamo in presenza di un fenomeno che predomina sul totale. Ecco, resta da dire ancora qualche cosa per le leghe di resistenza. Spero di non annoiare, ma qualche cifra poi chiudo subito. Ma questo è il minimo che si possa fare. Per quel che riguarda le leghe di resistenza, sempre alle date 910-911, e qui abbiamo una situazione che grosso modo ripete quella delle organizzazioni economiche in senso stretto. Cioè, se si guarda per esempio la consistenza dei soci delle leghe di resistenza cattoliche rispetto agli iscritti alle leghe di resistenza confederate o federate semplicemente in tutta Italia, siamo da capo su 10-12%, cioè siamo su cifre che e fanno capire la fondatezza di quell'osservazione fatta prima. Cioè, il coesistere probabilmente negli stessi soci di forme diverse di organizzazione economica. Cioè, qui abbiamo un fenomeno che si ripeterà, ma non solo per i cattolici, e anche in altri momenti. Lo stesso soggetto fisico che è presente in più sedi, insomma, no? Che è socio di una cooperativa di consumo e contemporaneamente è socio di una lega. Messe insieme queste entità danno questo 10%, che è il 10% della consistenza effettiva. Io su queste cifre non ho delle riserve, ovviamente, ma credo che siano sufficientemente indicative del fenomeno che stiamo esaminando. Ecco, non voglio ricordare ancora che questo tipo di valutazione del peso specifico è puramente quantitativa e manca veramente la valutazione di tipo funzionale, di tipo qualitativo. La Lega di Resistenza è il termine. No, io chiedo scusa io. La Lega di Resistenza è il termine adottato nelle rilevazioni ufficiali dal Ministero di Agricoltura per indicare l'unità base dell'organizzazione sindacale, cioè l'unità che si costituiva localmente, mettiamo in un paese, tra i salariati o tra i mezzadri di quel paese. E formava l'unità di base, l'unità locale, la Lega. E più leghe locali di comuni potevano formare, difatti formavano un'entità superiore, la Federazione delle Leghe. È una specie di sindacati del proletariato agrario, più o meno. È un punto più delicato, perché questa etichetta andavano quei lavoratori. Prendiamo il settore agricolo. Nel settore agricolo le leghe di fatto associavano separatamente in campo socialista, meno separatamente in campo cattolico, i salariati, leghe di salariati, i mezzadri, leghe di mezzadri, i coloni, leghe di coloni. Ecco, c'è qui una distinzione che bisogna fare. Le leghe dei mezzadri e dei coloni sono prevalentemente cattoliche, le leghe dei salariati sono prevalentemente socialiste, perché le zone di influenza sono queste, insomma, perché c'è, poi dirò, una certa rispondenza, un collegamento, ma questo al punto successivo che devo ancora trattare. Però in via proprio di descrizione strettamente strutturale, la Lega, ripeto, è l'unità di base organizzativa dei lavoratori, cioè un mezzadro è certamente un lavoratore, quindi dei lavoratori della terra, che si organizzano localmente e che poi danno luogo a legami superiori, ripeto, quello provinciale, la federazione, su fino in campo socialista, alla grande federazione della terra, che raggruppava tutte le leghe e tutte le federazioni provinciali della terra. La struttura del sindacalismo italiano, come sanno, è una struttura piramidale: alla base ci sono le leghe, e poi le federazioni, e poi le confederazioni, no? come ultimo tipo di organizzazione centralizzata. E semmai poi in sede di discussione possiamo approfondire questi aspetti. Ecco, potrei adesso passare, dovrei anzi passare al terzo punto della mia ricostruzione, cioè quella che cerca di cogliere le ragioni nella storia economica e sociale italiana, le ragioni dell'evoluzione, del costituirsi, dell'evolversi, no, dell'assumere di certe caratteristiche di queste istituzioni. Ora, noi qui abbiamo chiaramente due momenti. Un primo momento che copre il ventennio tra l'80 e la fine del secolo, che è quello tutto dominato dalla grande crisi agraria fino alla ripresa, no, degli anni 94-96 a fine 800. Ed è una fase in cui predominano i problemi dell'agricoltura, quindi i problemi delle popolazioni rurali. Qui c'è un predominio nella struttura economica complessiva italiana dell'agricoltura, sia pure con profonde differenze tra il nord e il sud e all'interno poi degli stessi compartimenti. C'è un predominio dell'agricoltura e quindi delle forme di produzione e di tutti i problemi che sono connessi alla produzione e al consumo in campo agricolo. Richiamo qui delle cose molto, molto note. In nel predominio dell'agricoltura bisogna considerare quindi il predominio dei problemi che riguardano il mondo contadino. Quando si parla di ceti popolari, quando si parla di lavoratori, insomma, quelli che sono sulla scena in questo periodo sono prevalentemente, se non esclusivamente, i lavoratori della terra. Anche qui ci sarebbe un piccolo punto polemico che non apro neanche, insomma. C'è una certa tendenza nella storiografia italiana che si occupa di fenomeni del movimento sindacale, del movimento operaio, ad esaltare i fenomeni associativi e rivendicativi dei settori non agricoli, ma è uno sforzo che in genere dà dei risultati piuttosto, qualche volta quasi umoristici, insomma, cioè il tentativo di fare la storia di un proletariato industriale che con grande difficoltà si coglie perché esiste solo in zone molto limitate con delle caratteristiche peculiarissime. Basti pensare che l'operaio dell'industria di Milano, di Sesto San Giovanni, fino alla fine dell'Ottocento, fino alla Prima Guerra Mondiale, è un contadino che nei mesi di raccolto si assenta dalla Pirelli o dalla Falck e non va a lavorare anche per un mese, perché la cosa più importante per lui è ancora il raccolto. Parlo di Milano, non parlo delle zone centrali dell'Italia centrale o meridionale, insomma, no? Quindi la ricerca di questo proletariato industriale, insomma, è un esercizio che taluni fanno, ma ripeto, con risultati non molto brillanti. Perché all'opposto, invece, quello che veramente conta in questo momento, per le caratteristiche della struttura economica italiana, è il mondo contadino e quindi tutta la sua problematica. E quello che devo ricordare, un mondo contadino tremendamente eterogeneo. Questa è una. Anche qui ci sono avuto delle sopravvalutazioni. Si parla, per esempio, perché si ricollega ad un maggior attivismo dal punto di vista politico al salariato della Valle Padana, no? Ma il mondo contadino italiano non è il salariato della fittanza capitalistica della pianura padana, perché i salariati in queste zone sono poche centinaia di migliaia, insomma, non sul totale del mondo contadino e dei ceti contadini italiani, che vedono invece la netta prevalenza dei ceti mezzadrivi, dei ceti colonici, ripeto, in posizioni diversissime dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico. Sono in gran parte contadini non proprietari che lavorano terra altrui con rapporti contrattuali diversissimi tra di loro, diversissimi dal punto di vista economico, dal punto di vista, per esempio, della divisione del prodotto. Nel 1891 il Ministero di Agricoltura pubblicò un'inchiesta sui contratti agrari in Italia con lo scopo di favorire una legislazione che unificasse i contratti agrari, e si dovette concludere che questa unificazione era impossibile, data l'enorme eterogeneità dei tipi di contratti esistenti. Sarebbe stato possibile solo in quanto si fosse uniformato ciò che era invece molto diverso nella sua natura primitiva. Quindi prevalgono i ceti contadini, prevalgono i problemi del mondo contadino che è travagliato da condizioni di vita che sono pesantissime. Basti pensare all'emigrazione come dimostrazione, come prova di questo, quindi l'esodo, no, che comincia dopo il 75 e il 76 in conseguenza della crisi agraria, che si accentua ininterrottamente fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Basti pensare alla diffusione dell'analfabetismo, basti pensare alla diffusione di alcune malattie sociali come la pellagra, no? Veramente molto, molto rilevante in tutta l'area settentrionale, che è l'indice fondamentale, insomma, delle condizioni di vita delle popolazioni. Le quali popolazioni contadine, ecco, vengo al punto, hanno dei bisogni primitivi, hanno dei bisogni elementari. Qui naturalmente io chiedo scusa di vedere le cose con l'occhio che è mio, insomma, della mia specializzazione. È un mondo contadino che non sa cuocere il pane, ha la pellagra perché non sa cuocere il pane. È un mondo contadino che è travagliato dall'usura, l'usura per le piccole cose familiari, l'acquisto di un attrezzo, il matrimonio, il funerale, non ha i mezzi, perché non per lo stesso tipo di rapporto predominante. Si prende il caso della mezzadria. Nel caso della mezzadria il mezzadro non vede mai danaro, perché tiene metà del prodotto, l'altra metà di parte domenicale passa al proprietario, In questo caso la disponibilità di numerario, come si diceva, era ridotta quasi a zero. Il contadino quindi che è in condizione di dover ricorrere frequentemente all'usuraio. Molto spesso l'usuraio è il proprietario stesso che anticipa la semente, anticipa i mezzi per soddisfare a queste esigenze primitive. Quindi ha bisogni di alimenti connessi all'alimentazione, ha bisogni connessi al suo stato fisico, alla sua vita familiare, ha bisogni soprattutto connessi all'attività produttiva, no? Al suo lavoro, agli attrezzi, alle sementi, a queste cose primordiali ma fondamentali della sua vita. Ora, questo crea una serie di esigenze, di problemi, alle quali il mondo cattolico organizzato dà una risposta. Ora, non c'è dubbio che c'è una rispondenza molto precisa. Da una parte l'insorgere di questi fenomeni, chiedo scusa, ho commesso un errore, non l'insorgere, il venire ad evidenza di questi problemi, perché questi problemi c'erano già prima, ci sono da secoli, ma il venire ad evidenza in modo talora drammatico di queste situazioni ne trova una rispondenza nell'azione che si determina localmente, soprattutto nelle comunità intorno alla parrocchia, una rispondenza all'esigenza con strutture che sono quelle di cui abbiamo parlato. Ecco il forno rurale per cuocere il pane, semplicemente per cuocere il pane. Ecco la latteria sociale per mettere insieme i 20 litri di latte di cui ogni singolo contadino dispone, da lavorare non singolarmente ma insieme. Naturalmente per noi altri che siamo abituati ad altre cose questo non vuol dire quasi più niente, ma per chi viveva solo di pane, praticamente solo di pane e di polenta e di poco altro, questo diventa un fatto fondamentale. È un fatto fondamentale non dover dipendere più dall'usuraio, ma poter mettere insieme i pochissimi risparmi e in qualche modo aiutarsi in quei casi drammatici, per esempio, in cui la malattia del bestiame colpiva l'unico capo di cui la famiglia contadina disponeva. E come sta scritto da qualche parte, in quel caso, quando moriva l'unico capo di bestiame che serviva a tirare l'aratro, non c'era che un modo ed era mettere la moglie del mezzadro al posto della mucca che non c'era più, o del bove che era morto, perché quello era l'unico mezzo per lavorare la terra, no? Quindi questi accidenti, che a noi sembrano, come dire, così di pochissimo rilievo, per popolazioni di questo tipo erano fatti capitali, di enorme importanza. La struttura che si costituisce è una struttura che cerca di rispondere, e in parte risponde, a queste esigenze. Quindi non è difficile, da un punto di vista storico-economico, vedere, almeno intuire, alcuni effetti, no? L'aggregazione, per esempio. L'aggregazione di soggetti, di persone che altrimenti non avrebbero potuto trovare, se non in questo modo, un collegamento, un'associazione. Quindi l'aggregazione e la mobilitazione associativa, autonoma, che si determina. La mobilitazione anche delle risorse. Le risorse che economiche che sono localmente disperse o sono in poche mani, anzi spesso sono in poche mani, che trovano un'alternativa, no? Poche singole risorse che si uniscono, si aggregano e si mobilitano quindi in funzione economica. Altri aspetti di queste esperienze, il coinvolgimento del clero. Molto spesso in istituzioni di questo tipo è decisiva la presenza del clero, e io credo scusa a tutti quelli che fanno dell'umorismo su queste cose, molto spesso solo perché era l'unico che sapeva leggere e scrivere, ed era l'unico che sapeva fare i conti. E siccome in queste cose fare i conti sembrava una cosa decisiva, perché se si fa una cooperativa o si fa una cassa rurale qualche conto è essere capace di fare i conti, ecco che la presenza del clero diventa determinante a questi effetti, prima ancora che per altre motivazioni, sulle quali così si fa magari, ripeto, o dell'ironia o della speculazione. Perché questa è l'esperienza in concreto che si è determinata. A questa fase, ripeto, 80-900, subentra la fase di parziale industrializzazione, la fase cioè che vede nelle aree settentrionali, soprattutto il cosiddetto triangolo, uno sviluppo produttivo di tipo industriale, che come loro sanno non ha avuto una rilevanza dal punto di vista occupazionale. statistiche, i censimenti, soprattutto italiani, così poco attendibili, comunque ci dicono che non si è avuto un massiccio passaggio di manodopera dall'agricoltura all'industria. Ci dicono che in questa fase è la manodopera già occupata industrialmente che viene impiegata in forme più efficienti dal punto di vista produttivo. Questo permette un aumento di produzione in alcuni settori, come tessile, metallurgico, siderurgico. È la nascita di quello che Cafagna ha chiamato la base industriale italiana. Quindi abbiamo fenomeni sociali notevoli. Abbiamo il diffondersi del lavoro di fabbrica, l'intensificarsi, del lavoro di fabbrica, con unità produttive più ampie. Abbiamo d'altra parte un'agricoltura che si trova di fronte a difficoltà maggiori, forse, che nel passato, dovute alla più intensa mobilità interna. No? La quale mobilità interna, in pratica, cosa fa? Accentua lo stato di insicurezza. Quello che era predominante nella situazione che io ho esaminato prima, 80 fine 800, in fondo il grande dato che sintetizza la condizione contadina è l'insicurezza. Anche qui varrebbe la pena di rivolgere un invito a quelli che studiano questi fenomeni dal punto di vista religioso, a valutare il significato che poteva avere la religione per popolazioni che erano tragicamente condannate alla più completa insicurezza, da tutti i punti di vista. E sostanzialmente dal punto di vista del poter mangiare almeno una volta al giorno, che pare che sia un'insicurezza che adesso ripeto anche da capo a noi, anzi noi abbiamo il problema di cercare di mangiare qualche volta in meno, mentre invece il problema era esattamente rovesciato, bisognava almeno mangiare una volta al giorno e mangiare così in modo da consentire quel recupero di energie che poi erano consumate in un lavoro faticosissimo, uno stato di insicurezza che qui ha una valenza diversa o un po' diversa. È la valenza del grande movimento interno, no? Cioè dei movimenti di popolazione, ma che, ripeto, si manifesta ancora attraverso l'emigrazione, l'accentuarsi delle migrazioni e soprattutto l'accentuarsi dei conflitti sociali, degli scioperi, no? Dei conflitti aventi una base economica. Ecco, è qui che secondo me si verifica un fatto che va attentamente considerato. Accanto alle istituzioni economiche preesistenti, cooperative di varia natura, casse rurali, forni, eccetera, eccetera, su queste istituzioni si innestano le istituzioni di resistenza. Ma è fin troppo evidente, questo è il punto, che queste organizzazioni di resistenza sindacali, le leghe sindacali, altro non sono che un modo diverso di agire di soggetti che già sono in gran parte organizzate in strutture di tipo cooperativistico, di tipo mutualistico. Questo in parte ripete le vicende del movimento operaio e contadino italiano, perché anche per le organizzazioni socialiste si verifica la stessa cosa. È dal mutualismo che si passa alle leghe operaie, alle società operaie, e dalle società operaie che si passa poi ai sindacati, alle federazioni di categoria, alla Confederazione Generale del Lavoro. Però in campo cattolico questo sembra essere ancora più condizionante, perché le stesse leghe sono presenti, laddove sono presenti localmente, geograficamente, le istituzioni di tipo economico, sociale, cooperativistico, mutualistico. E questo è indubbiamente un condizionamento. Ma attenzione, è un condizionamento che va inteso in questo senso, che l'azione sindacale cattolica si trova a dover affrontare problemi strutturalmente molto complicati. E mi spiego subito. Laddove l'azione sindacale socialista nelle campagne, avendo raggruppato i salariati, ha margini molto ampi di azione, in quanto è noto che il salariato ha, per esempio, nell'uso dello sciopero, non ha praticamente condizionamento, se non quello che gli deriva dal reddito familiare, dal reddito di cui dispone. Io non so se loro hanno mai valutato, per esempio, che cosa voleva dire all'inizio del Novecento lo sciopero per un mezzadro. Lo sciopero per un mezzadro si realizza in un modo solo, non tagliando la biada, non tagliando il grano, non c'è altro, non mungendo il bestiame. Si dà il caso però che il mezzadro percepisca la metà del raccolto. Si dà il caso che quando il mezzadro sciopera, priva se stesso del grano e del grano turco che gli servono per fare la polenta per i figli, per i giorni successivi e per tutti i mesi che devono venire. Laddove invece al salariato della Valpadana, di cui è stato scritto tutto il possibile, Questi problemi non si ponevano, perché il salariato è per definizione colui che rifiuta la prestazione di lavoro attraverso lo sciopero per conseguire contrattualmente un certo miglioramento, apportando il massimo di danno nel momento nel quale, per l'appunto, si taglia la biada o si taglia il frumento, si rifiuta di fare questo, ed è il fittabile in questo caso che ci rimette tutto. È il proprietario in questo caso che è danneggiato, così come deve essere, nella logica del conflitto e nella logica dello sciopero. Ma per le categorie coloniche, queste categorie coloniche che sono combattute, che sono travagliate da contratti che stabiliscono che metà del grano va, che tutto il grano va al proprietario, che gran parte del grano turco resta al colono stesso, che 3/5 dell'uva vanno al proprietario, che 2/5 della foglia del gelso vanno invece, che ha un rapporto contrattuale tremendamente complesso e costruito su una logica, la logica di impedire al minimo l'iniziativa imprenditoriale del colono stesso. Certo, organizzare i salariati è obiettivamente più facile, organizzarli e portarli alla lotta. E non a caso il socialismo italiano si rifugia, come dire, nella speranza evoluzionistica, riaffermata a chiare lettere nei congressi, che i mezzadri diventino dei salariati, che i coloni diventino dei salariati per evoluzione stessa della struttura agricola, perché dice che il giorno che il mezzadro è diventato un salariato, è chiaro, la sua partecipazione all'azione sindacale diventa una cosa tremendamente semplice, laddove invece l'organizzazione e la partecipazione alla lotta rivendicativa delle altre categorie, che sono quelle predominanti, sono gli 8/10 del totale delle forze di lavoro agricole e italiane, erano queste. Serve una precisazione? È chiaro, benissimo. Ora dicevo, e in questa situazione quindi l'azione sindacale cattolica è veramente messa in difficoltà e deve affrontare problemi che sono problemi della struttura, sono problemi dell'ambiente, come tale, che il mondo cattolico naturalmente affronta, e affronta con esiti, io devo dire con esiti per certi aspetti positivi, perché da capo c'è aggregazione, ma ci sono anche effetti positivi dal punto di vista, sembra, proprio economico, rivendicativo, che forse contraddicono un po', ma queste sono cose che bisognerà decidersi ad approfondire, a studiare, contraddicono così luoghi comuni o interpretazioni di comodo. Io mi permetto di citare un documento che ho trovato nell'archivio della Camera di Commercio di Milano. È una relazione di un incontro organizzato dalla Confederazione Italiana dell'Industria, no? L'Organizzazione degli Industriali Italiani, nel 1912, è un momento delicato, di depressione economica, di forte conflittualità, no? E gli industriali di una zona importantissima economicamente parlando d'Italia si trovano a convegno e discutono tutte le loro questioni, e naturalmente vengono a discutere anche dei rapporti con la controparte, con i sindacati. Ecco, e la relazione è di Olivetti, presidente. Qui c'è riferimento a una questione all'interno del Consiglio Superiore del Lavoro, dove e dice il Presidente: ora tutto questo andazzo, cioè relativo al Consiglio Superiore del Lavoro, è un po' da attribuirsi agli stessi organi burocratici che sono stati creati al Ministero, ma molto di più a quel Consiglio del Lavoro la cui riforma noi riteniamo più che urgente, nonostante il parere contrario di Sua Eccellenza Nitti, interessato solo ad evitare lo scoglio delle organizzazioni confessionali, o meno, a proposito delle quali, ora che una diligente statistica dell'Ufficio del Lavoro ne ha rivelata l'importanza, attualmente localizzata da alcuni centri, nel discorso che si faceva prima, la Confederazione dell'Industria crede che nessuna disparità di trattamento si debbano fare ad esse quando si trovano nelle condizioni che noi riteniamo in genere necessarie per riconoscere le organizzazioni operaie. Ma ritiene la Confederazione che nessuna preferenza debba farsi e nessuna speranza debba fondarsi su un movimento che in alcuni casi, a lato pratico, si è rivelato più temibile che non quello di tendenza socialista, lo sciopero di Reinecke in forma. Siamo nel 1912, siamo, ripeto, in un momento particolare. Beh, però questo non è, come dire, una cosettina così marginale. Questo è il giudizio del presidente della Confindustria, secondo il quale dice, questo è bellissimo perché ci sono delle cose che bisogna cogliere, nessuna speranza, vuol dire che qualche speranza l'avevano, insomma, no? Ma no, dice, nessuna speranza debba fondarsi su questo movimento cattolico. E dice, dove è possibile, dove è capitato che si sia rivelato più temibile, sindacalmente parlando, che non quello di tendenza socialista. Ora, ripeto, questo associazionismo cattolico, soprattutto in, associazionismo sindacale cattolico, soprattutto in, campo agricolo, aveva di fronte le difficoltà che ho detto prima e non voglio neppure richiamare. Difficoltà tremende che in qualche modo si ripetono anche nel settore industriale, perché qui la predominanza socialista è ovvia, è evidentissima, insomma, la presenza stessa delle organizzazioni cattoliche nelle città è più difficile che non nella campagna. Però, come loro vedono, siamo di fronte a problemi di interpretazione, a problemi di ricostruzione, che ci presentano, come dire, un quadro un po' diverso da quello a cui ci ha abituato soprattutto una certa storiografia. Resterebbe l'ultimo punto, e chiedo scusa che forse sono stato un po'... L'ultimo punto riguarda i problemi storiografici che io ritengo aperti e ritengo naturalmente tali interessanti da suggerire alla loro attenzione. I problemi mi sembrano essere questi. In primo luogo il problema delle motivazioni di questo tipo di organizzazione e di associazione economica. Il lavoro fatto fino a questo momento, soprattutto il lavoro che io personalmente con alcuni amici che lavorano all'Archivio per la Storia del Movimento Sociale Cattolico, costituito da circa 10 anni presso l'Università Cattolica, il lavoro fatto insieme ci permette già di cogliere, a proposito di questa questione, di cogliere qualche linea interpretativa. Ecco, per esempio, la distinzione che mi sembra necessaria tra quelli che chiamerei i dottrinari e quelli che chiamerei i pragmatici, gli operatori in questo campo qui. Noi su questi punti, ripeto, abbiamo solo così qualche ipotesi. L'ipotesi cioè che si debba veramente tenere distinto alcune preoccupazioni che emergono nel dibattito. Il dibattito dell'opera dei congressi prima, il dibattito delle settimane sociali, il dibattito sulla stampa, insomma. E poi la reale problematica che avevano gli operatori cattolici in campo sindacale, in campo cooperativistico, in campo creditizio. Richiamo ancora quella cosa della settimana sociale. Dice, nell'azione, in pratica, noi facciamo quello che va fatto secondo le finalità delle istituzioni. Semmai abbiamo dei problemi che sono connessi all'azione in campo cooperativistico, in campo creditizio. C'è l'opportunità, secondo me, di fare questa distinzione, o meglio, se credono, di non ritenere che tutta la problematica delle istituzioni economico-sociali cattoliche sia una problematica che si riflette nei dibattiti sulle riviste, che sia il Toniolo o non il Toniolo, sia il progressista cattolico o il conservatore cattolico, quando discutono di queste cose hanno preoccupazioni in quanto dottrinari, in quanto teorici del movimento cattolico, hanno preoccupazioni, io ho il dubbio che siano preoccupazioni che solo parzialmente colgono la reale problematica del movimento organizzato nelle varie direzioni. Anche il problema della confessionalità, da questo punto di vista, andrebbe riesaminato. Perché se è vero quello che sta scritto qui, e io credo che sia vero, che in pratica queste istituzioni economiche e sociali svolgevano compiti, avevano un ruolo economico del tutto simile a quelle delle organizzazioni puntualistiche, cooperative, creditizie, rivendicative, socialiste o borghesi o liberali, se avevano le stesse finalità, qui emerge chiarissimamente una cosa, che allora l'aggregazione sul valore confessionale, l'aggregazione sulla confessionalità, un certo peso lo doveva avere, perché sennò non si riesce a capire perché mai a finalità uguali, ad attività uguali, si determinassero poi delle profonde distinzioni. Mi dispiace che non ci sia il professor Guasco qui, ma le cose non, sì, non so se c'è, cioè, le chiedo scusa, ero in un posto un po' così, cioè. Le cose non stanno del tutto come credo di aver capito, insomma, dalle sue parole. Cioè, in effetti, alla base, nei vari ambienti, la distinzione c'era, insomma. E non era una distinzione di fini pratici, non era una distinzione di operazioni concrete. Il professor Traniello ha fatto un'introduzione ad un libro che è appena uscito, un diario di un parroco lombardo che ha operato in questi anni, e ha messo in luce come nelle comunità, nei luoghi dove la gente viveva, insomma, questa contrapposizione tra l'osteria e la casa del popolo da una parte, la parrocchia e la cooperativa di consumo cattolico, questa distinzione c'era, insomma. E ripeto, non era una distinzione di fini, di operazioni, perché queste non potevano che essere operazioni analoghe, del tutto analoghe. Un secondo problema, ho quasi finito, un secondo problema riguarda i modelli di riferimento di questa esperienza. Guardando così, ma guardando in modo superficiale, come siamo costretti a fare, sugli statuti, sugli aspetti di forma, insomma, ma non essendo ancora riusciti a penetrare dentro nell'attività, si può dire che non si sia inventato quasi niente, insomma. Cioè, l'ambiente italiano riproduce il fatto di cooperazione, di credito, di mutualità, riproduce strutture, insomma, che sono comuni all'ambiente italiano e in parte comuni all'ambiente europeo, con l'accentuazione naturalmente di certe zone rispetto a certe altre. Non si inventa quasi niente, forse l'unica invenzione è la fitanza collettiva, questa struttura del tutto particolare di cooperativa di lavoro, profondamente diversificata tra affittanza collettiva cattolica e affittanza collettiva socialista. L'affittanza collettiva cattolica divisa, insieme ci si mette, si fa una cooperativa, si affitta un grande fondo, lo si ripartisce in unità aziendali e ognuno si gestisce individualmente, si sta insieme solo per alcuni aspetti, l'acquisto delle sementi, l'acquisto delle macchine, le anticipazioni. L'affittanza collettiva socialista indivisa, si prende in affitto un grande fondo, lo si gestisce come collettività, quindi dividendo il lavoro e le varie fasi del lavoro. Ecco, questa è probabilmente una forma di organizzazione economico-sociale peculiare dell'ambiente italiano, che risponde poi a problemi specifici. Nell'Alto Milanese l'affittanza collettiva nasce per eliminare l'intermediario, lo speculatore, tra il grande proprietario, in genere un ente morale, e il colono. In Emilia Romagna l'affittanza collettiva è un mezzo per combattere la disoccupazione. Ripeto, al di là di questa forma, che è certamente peculiare e originale, per il resto si direbbe che i modelli di riferimento siano quelli circostanti, insomma, senza una capacità inventiva particolare, collegata poi ad un altro fatto che metterei in risalto qui, che la riflessione su queste attività, la riflessione, vuol dire il ripensamento, lo studio dei contemporanei, è piuttosto modesto, insomma. Al di là dei dottrinari, come ho detto prima, che ci ricavavano sopra, no, in nome di organizzazioni complete della società, organiche della società, ma una riflessione, come dire, tecnica anche su queste esperienze, in questi anni, che tanto sono pochi anni, il periodo è tremendamente breve, perché è un quindicennio neanche, insomma, poi viene la Prima Guerra Mondiale, poi vengono ben altre preoccupazioni. La riflessione è modesta e quindi anche la documentazione non permette di approfondire molto il problema. Ecco, un'ultima, come dire, serie di questioni o di problemi aperti riguarda il significato di queste esperienze nel quadro degli equilibri sociali e politici italiani di questi stessi decenni. Io non mi permetto certamente di richiamare qui le cose che sono state dette, le risposte, diciamo così, che la storiografia sul movimento cattolico, quella che ha tenuto campo in questi giorni qui, le risposte che ha dato, no, a questo problema, il significato di queste esperienze nel quadro generale. Ecco, vorrei solo ritornare su qualche punto che a me sembra dia già una qualche risposta al quesito stesso, naturalmente sempre dal punto di vista e con l'ottica che mi è particolare. La funzione di aggregazione, solo chi non conosce quali erano le condizioni effettive di vita del nostro mondo contadino fino alla Prima Guerra Mondiale ed oltre la Prima Guerra Mondiale può trascurare, sottovalutare quale enorme significato dal punto di vista sociale civile ha avuto anche poi i suoi effetti successivi, per esempio in fatto di consenso elettorale. Il grande consenso elettorale del Partito Popolare ha una spiegazione in questa aggregazione di alcuni decenni, perché al di là di tutte le disquisizioni dei teorici, quando è il momento di contarsi, evidentemente conta il numero, per l'appunto, ed è un numero che assume consistenza attraverso questa aggregazione, aggregazione che, mi permetto di dire, nessun'altra forza politica in Italia, socialisti compresi, voleva e poteva perseguire. Voleva e poteva, non la voleva da un punto di vista ideologico, non lo poteva da un punto di vista sociologico, perché basta seguire i grandi dibattiti avvenuti nel 1901 alla Costituzione della Federazione della Terra per vedere quali difficoltà aveva il socialismo italiano a tentare di aggregare categorie che ideologicamente non accettava. No? Il mezzadro è un il mezzadro è da considerarsi un lavoratore o non un lavoratore? Su disquisizioni di questo tipo si creavano delle difficoltà all'aggregazione, all'associazione, laddove invece, ripeto, l'azione dei cattolici è riuscita a dar luogo a delle forme di aggregazione e quindi, e anche questo mi sembra di poterlo dire tranquillamente, di promozione sociale. Promozione. Se il passare da una condizione di abbandono e di insicurezza individuale ad una situazione di minor insicurezza, di un minimo di aggregazione, di un minimo di vita associativa, un minimo di vita associativa, il trovarsi, come dire, nella canonica a discutere il bilancio della cooperativa. Io sarò eccessivamente sensibile a queste cose, ma siccome non vedo i mezzadri italiani trovarsi intorno a un tavolo a discutere sulla tesi del pensatore A o del pensatore B, non certamente a discutere il Toniolo, su questo credo di poter scommettere il mio modesto credito scientifico, lo metto tutto a disposizione. Credo di poter escludere nel modo più assoluto che i mezzadri toscani o marchigiani o siculi si trovassero di sera per discutere l'ultimo articolo del Toniolo. Questo è sicuro. Ma se invece hanno trovato una forma di aggregazione, l'hanno trovata su queste cose, sulle cose che direttamente e vitalmente li interessavano. Quindi richiamo ancora l'altro aspetto, cioè la rispondenza a bisogni autentici dei ceti popolari, dei ceti contadini italiani, di questa struttura. Richiamo ancora una cosa che è da approfondire, la contrapposizione che si determina localmente tra queste esperienze e la dirigenza liberale borghese. Guardino per esempio che sul fatto delle casse rurali, ci si ferma, come hanno fatto per esempio i padovani, per citare, e ci si ferma sulle cose così del momento, dell'anno, dei 2 anni, dei 10 anni, insomma. Ma chi guarda le cose nell'insieme non può sfuggire che nel 1926, a regime affermato, si fece una cosa molto semplice. Si spazzarono via le casse rurali cattoliche. E chi operò questa cosa, cito dal Tamagnini, le casse rurali, l'unica storia delle casse rurali scritta non da uno storico di mestiere, ma comunque con una documentazione interessante, dice l'onorevole Alfieri, commissario straordinario del sindacato italiano delle cooperative, dice bisogna, in merito alla cooperazione di credito, egli dichiarò che le condizioni per il suo sviluppo erano sufficientemente mature, come era dato presumere dagli esperimenti ben riusciti che si palesano nelle veste di banche popolari e di casse rurali, ed aggiunge «è un campo questo che fino ad oggi è rimasto monopolio del movimento bianco e nel quale l'ente dovrà penetrare». Gentilezza per dire nel quale l'ente dovrà operare una spazzolatura completa, insomma, come di fatti avvenne. E l'esperienza delle casse rurali cattoliche, rivincita tardiva da parte degli interessi che dopo il 90 sono lesi localmente, perché la cassa rurale, in quanto mobilita piccole risorse finanziarie di provenienza popolare, si mette in contrasto con altri tentativi dello stesso tipo, dal punto funzionale, ma su altro segno politico, che vengono compiuti. Quindi c'è una contrapposizione ad una dirigenza locale sul piano economico, no? Liberale borghese, diciamo, soprattutto nel campo del credito. E ripeto, questa vicenda ultima, conclusiva, questa liquidazione dei conti, ha un significato politico che non può essere ignorato. E poi c'è ancora un'ultimissima cosa che riguarda così il significato, il tentativo che secondo me fa il movimento sindacale cattolico in questi anni, un tentativo destinato all'insuccesso naturalmente, come altri tentativi fatti successivamente e abbastanza recentemente hanno dimostrato la stessa debolezza, quello di impostare il conflitto economico, il conflitto sindacale, con lo sciopero, con l'organizzazione, in modo, come dire, non selvaggio, come si usa dire adesso, non selvaggio e politicizzato e carico di significati che trascendono la stessa logica dell'azione sindacale e dell'azione rivendicativa. E si va di bene, il tentativo che viene fatto da un sindacato e sindacati cattolici in alcune zone di mobilitare sul piano sindacale masse che altrimenti non sarebbero state mobilitabili, come abbiamo visto prima, e di mobilitarle con un'azione sindacale i cui esiti, si è visto prima il giudizio complessivo, ma i cui esiti per esempio nell'ambito agricolo non sono per niente negativi. Perché se io penso per esempio che i patti colonici di tutto l'Alto Milanese, di tutto il Bresciano, dalla Bergamasca, sono stati modificati dal 10 fino al primo dopoguerra e modificati radicalmente, con una conflittualità certamente inferiore alla conflittualità che si è manifestata in altri ambienti, con un risultato però, che qui i patti si sono veramente cambiati, si sono cambiati in senso favorevole al mondo contadino. Certo, non erano racchiudibili dentro in una logica di tipo rivoluzionario, di cambiamento totale. Si limitavano ad aggredire singoli aspetti del contratto e sono riusciti in qualche modo a modificare. È un tentativo naturalmente discutibile nel suo significato ideologico, politico, però dal punto di vista storico siamo in presenza, ripeto, di un tentativo di impostare il conflitto in un modo diverso da quello che predominava, che era quello imposto dal movimento sindacale di segno socialista. Concludo, non concludo niente, perché non credo che si possa concludere. Si può solo dire a questo punto che i problemi aperti sono certamente più numerosi di quelli per i quali esiste una risposta soddisfacente. C'è solo da rivolgersi reciprocamente, come dire, l'invito e l'augurio di sentire questi problemi, di sentirli in questa prospettiva e di cercare di dare un qualche contributo alla loro soluzione. Darf ich mal fragen, ist es notwendig, dass wir das ins Deutsche übersetzen? Denn das würde viel Zeit kosten, vielleicht. Che hanno dovuto, i colleghi che hanno dovuto partire prima. E poi ancora ieri sera con il professor Repken discutevamo sulle possibilità di un altro, sull'auspicabilità di un altro seminario che in certo senso si ricollegherebbe a questo. Aggiungerò una piccola sottolineatura ideologica personale, punto di vista personale, a questa proposta. Siccome mi pare che l'internazionalismo sia in crisi anche nel campo socialista e siccome io sono un accanito internazionalista, desidererei molto, ma vedo che il desiderio è condiviso, si potesse fare un seminario sul fallimento del tentativo per far sorgere un internazionalismo cristiano parallelo a quello all'internazionale socialista. Allora, dal momento in cui la seconda internazionale spariva e nasceva la terza internazionale, cioè fra il 1914 e direi il ventennio totalitario, cioè fra il 1914 e il 1945, malgrado che forse si sia avuto in questo periodo proprio l'acme, il punto massimo del furore, della passione nazionalistica prima sotto il segno ancora di un certo qual residuo di liberalismo e poi sotto il segno del totalitarismo. Noi italiani pensiamo a figure come quelle di Donati, di Ferrari, di Sturzo, eccetera, alle amicizie anche che si sono intrecciate fra questi uomini di punta e uomini di punta della democrazia laica. Basti citare Salvemini per il caso di Ferrari e per il caso di Sturzo. E sembrerebbe che questo potrebbe essere un seminario interessante e in un certo senso culturalmente ieri ha avuto un accenno Tesler all'ecumenismo. Sì, direi a un ecumenismo laico, vero? Perché era un cristianesimo, ma un cristianesimo fortemente laicizzato. Anche qui esprimo la mia personale simpatia per questa forma di presa di posizione. Quindi credo che potrebbe essere un bellissimo tema. Detto questo, ringrazio ancora il relatore Stamani che ci ha dato un visuale così, una prospettiva così realistica e aprirei il dibattito chiedendo. Tradurre un momento in tedesco, giustamente, dimentico te. Ehe in die Diskussion über das Referat von Herrn Zaninelli eintreten, hat Herr Passerin mitgeteilt, dass Pläne bestehen, in gewissem Sinne die Arbeiten dieses Seminars in einem künftigen Seminar fortzusetzen, und zwar über das Thema würde, das ist nur zunächst einmal ein Arbeitstitel, würde etwa lauten, katholischer oder christlich-demokratischer Internationalismus oder genauer gesagt internationale Beziehungen oder Vergleiche für die Jahre 1914 bis 1945. Das wäre also die Zeit vom Ersten Weltkrieg noch dazu bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Das in gewissem Sinne das, was wir hier für zwei Länder gemacht haben, nun auf einer breiteren Basis mehr eigentlich gesamtes Mittel- oder gesamteuropäisch gedacht. Das sind Pläne, die erwogen werden und die eine gewisse Fortsetzung ermöglichen würden. Allora forse passiamo la parola per parte personale a Guasto che è stato citato dal relatore. È stata fatta nell'intervallo di 12 versetti, solo per quelli che avevano bisogno perché c'erano solo due che hanno anche capito tutto, che il professor Zaninelli ha parlato così chiaro che tutto era chiaro quelli che avevano un po' di difficoltà. Sono un po' costretto ad intervenire non per avere l'ultima parola, perché non finiamo con l'idea che siamo tutti d'accordo, insomma sarebbe un po' triste se non si notasse su qualche punto ci sono anche delle divergenze, altrimenti non si procede più. Anzi, premetto che verso le 11:30 devo andare via, questo non vorrei fosse interpretato come un motivo di fuga, ma è solo perché nella linea che il professor Zaninelli indicava ho bisogno di arrivare stasera a uno di quelli pratici e non dottrinari, non vorrei perdere, allora se perdo il treno, perdo l'incontro. Dopo l'intervento, se c'è qualcosa da aggiungere, chiederei al professore di farlo subito, perché se fa dopo un giro rischia di non sentire la sua eventuale risposta. Io avevo accennato nel mio intervento di due giorni fa a quelle che potevano essere certe alleanze alla base tra cattolici e socialisti, e credo sia fondamentalmente questo punto che ha provocato questa precisazione da parte del professor Zaninelli. Una precisazione che francamente condivido del tutto, anche se ritengo ci siano degli aspetti da precisare, cioè condivido del tutto il fatto che alla base, a livello di organizzazione, ci fosse una distinzione nettissima tra le organizzazioni cattoliche e socialiste, e che evidentemente fra le scelte, fra le motivazioni delle scelte da parte di cattolici, la scelta dell'organizzazione cattolica, ci dovevano anche essere degli aspetti religiosi. direi che non sono gli unici indubbiamente, perché ci sono anche motivazioni di fatto, in zone in cui le organizzazioni socialiste sono più forti, non è escluso che qualche cattolico si aggreghi a questa organizzazione perché è anche preoccupato, oltre alla motivazione, dei risultati del lavoro, per cui accetta forse di entrare in una lega che è socialista ma che localmente non è così antireligiosa proprio per gli scopi che vuole ottenere a livello concreto. Ma a livello ideologico sono certo che ci sono delle motivazioni religiose anche nella scelta di un'organizzazione cattolica e socialista. Questo però, ripeto, a livello di scelte organizzative. Però è significativo il fatto che il professore faccia notare che gli iscritti a queste organizzazioni fossero grosso modo il 10%. Ora, io ritengo che in certe zone i cattolici praticanti fossero molto di più del 10% e che fra questi di più del 10% ce ne fossero anche degli attivi a livello sociale. In quali organizzazioni, mi chiedo? E non escludo che alcuni, proprio per la non religiosità di certe zone delle organizzazioni socialiste, fossero aggregati anche a queste organizzazioni. È chiaro che a livello di vertice, a livello di organizzazione, il socialismo di fine 800 e inizio 900 è fortemente antireligioso. E quindi è chiaro che, cioè, in questo senso, credo di condividere, anche se il mio accenno, ecco, questo era per precisare il mio accenno, a queste alleanze alla base era più un dato di fatto, cioè capita. E non è escluso, anzi, non solo non è escluso, ma è certo, lo deduco dalle analisi di certe visite pastorali, che certi vescovi un pochino si preoccupano di questo mutuo influsso. Insomma. È sintomatico il discorso sull'incontro a livello dell'osteria, è un discorso che io introduco spesso, ma è molto significativo, alla fine dell'Ottocento, la lotta del parroco contro il ballo, ma soprattutto contro l'osteria, perché l'osteria sta diventando il luogo della nascita di una nuova cultura. E nell'osteria nuova cultura si incontrano cattolici e socialisti, parlano, discutono nell'unico posto del paese dove il parroco non entra. Quindi nasce una cultura non controllata dal parroco. Teoricamente. Sì. Se entra non va a discutere. Ora, da noi sì. Sì. Allora sì, questa è la grande differenza del mondo germanico, il parroco, sì, specialmente sì, in Austria, il parroco sì, sta nell'osteria sì, e domina la situazione. E domina in la molti casi è lui stesso oste, per esempio in Tirolo ci sono i parroci che sono anche oste, che hanno anche un'osteria. Ecco, suggerimenti. Per quasi tenere in mano. Ecco. Un sistema totalitario della Chiesa. In questo senso, appunto, è molto in Italia, dicevo, appunto, non entra non solo quindi si forma una cultura alternativa, ma è il luogo in cui l'analfabeta, e sono la grande maggioranza dei contadini, ha possibilità di leggere, perché l'avanti, cito l'esempio che il parroco condanna, viene letto ad alta voce nell'osteria da quello che sa leggere, magari dal farmacista, che è il contraltare del parroco, no? Cioè, questo per precisare, dicevo, cosa intendevo a livello di queste alleanze. Ecco, farei ancora una piccola aggiunta, e qui proprio per, qui ancora per fare alcune osservazioni sulla relazione. Io sono fondamentalmente un pragmatico, insomma, anch'io non credo al discorso di principi, al discorso delle grandi idee, però vorrei un pochino mettere in risalto come non dobbiamo neanche esagerare su questo, facendo notare come l'esagerazione su questo può portare dei grossi rischi, e ne dico uno per esempio. Quando diciamo che questi erano fondati, che i cattolici all'interno delle organizzazioni si riunivano anche su motivazioni religiose, e io ne sono d'accordo, poi aggiungiamo che non si trovavano lì per discutere insieme il programma di Toniolo, che per carità io non avrei mai discusso il programma di Toniolo, ma magari ci sono altre questioni di principio dottrinarie che potevano discutere. Quando diciamo questo, e diciamo ed era giusto che fosse così, stiamo attenti che corriamo un grosso rischio, cioè, per esempio, quello di aggiungere non si sono mai trovati a discutere le encicliche del Papa, e forse non si sono mai neanche trovati a discutere sulle pagine del Vangelo. Allora io rischio di chiedermi, se togliamo queste motivazioni dottrinali di fondo e se aggiungiamo che questi non discutevano su Toniolo, non discutevano su Marx, non discutevano sul Vangelo, dico, ma allora qual era il loro specifico religioso? Era solo una tradizione. Un'ultima osservazione, e qui ancora una volta forse per far capire perché io spesso faccio interventi richiamandomi al religioso, che rischiano a livello storico, a livello sociologico, di falsare i discorsi. Cioè, quando il professore dice giustamente ci sono dei momenti in cui ci si conta, e allora in questo momento l'essere in tanti è fondamentale. Io sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda un certo tipo di disegno, di lavoro in funzione di un certo tipo di società. L'essere di più che la vogliono può significare avere più, significa avere più possibilità di successo. Però sono molto, molto così restio a vedere in questo le motivazioni religiose dietro. Perché così io faccio un discorso religioso qui, se volete, integrale, integrista, tutto quello che volete. Cioè, il fatto che ci si conti, io mi chiedo, beh, cosa c'entra questo col mondo religioso? Perché finché vivo, insomma, e credo in un certo modo, mi chiedo se Gesù Cristo, che a livello di movimento cattolico è il punto di riferimento delle motivazioni religiose, ha avuto anche come metro della sua azione religiosa il successo numerico. E siccome ritengo di no, però questo, ripeto, non è un discorso storico, assolutamente. Siccome dicevo ritengo di no, ecco, sono d'accordissimo, bisogna anche contarci, ma allora facciamo un discorso sociopolitico, storico, ma un discorso religioso diventa un punto interrogativo. Non escludo che ci siano altri che pensano diversamente. Dico il perché io insisto spesso, quando faccio un discorso religioso, sulla, così non ho una grande attenzione al numero e alle organizzazioni, perché questo è un discorso sociopolitico importantissimo, perché dico le motivazioni religiose che io riferisco a Gesù Cristo mi lasciano perplesso sul concetto del numero, sul valore del numero. Grazie, scusate. Allora, no, andate a predicare cosa vuol dire il numero. Certo. Io, no. Ma c'è anche l'altra frase: dovunque sarete in due, io sarò con voi. No, scusa, no, tanto. A livello di battuta posso anche aggiungere il testo di tutte le genti fatti miei discepoli, però siamo a livello di battuta, non ha mai detto il contato quanti ne avrete. Perché se questo, no, scusa, stiamo nella battuta. Se questo era il metro del successo, povero Cristo, insomma, 12, uno l'ha piantato lì subito, sì, e gli altri 11 certo. Dopo. Scusate che faccio il prezzo. No, siamo a livello di... Però, ripeto, io ho espresso un'opinione, la verità. Posso rispondere? Sono certo, d'accordo con il papel. D'accordo. Altre volte non so. No. Posso rispondere? Sì, senz'altro. Ma non ho molto da rispondere, nel senso che le osservazioni che sono state fatte in parte confermano, insomma, per le cose che sono state dette. Ecco, avrei solo una sorta di replica su quel punto dove le dice in effetti ho il dubbio che in queste concrete manifestazioni associative la preoccupazione predominante fosse quella di natura economica. Io sono sceso al dettaglio, il bilancio, eccetera, eccetera. Mi viene il dubbio che non discutessero. Ecco, io non vorrei che non si perdesse di vista una cosa, e lei mi dovrebbe dare una conferma se è d'accordo, perché i suoi studi in questa direzione qui contano più, certamente più dei miei, che non ci sono quelli. La pluralità delle presenze. Cioè, il cattolico che vive in Brianza frequentava l'oratorio. E lì trovava un discorso. Lo stesso cattolico andava alla cooperativa di consumo. È presumibile che lì non ascoltasse il Vangelo, ma parlasse di bilancio. Però non dimentichiamo che è lo stesso. Cioè c'è una pluralità, io l'ho detto, forse l'ho detto male, chiedo scusa, ma c'è una pluralità di presenze che danno luogo a quello che si ripete poi in campo socialista, pari pari. Perché il bracciante, il contadino di fede socialista, in fondo trova anche lui nella cooperativa discorsi di questa natura, ma trova poi nella casa del popolo la possibilità di fare discorsi, addirittura l'osteria è la parrocchia, insomma, no? È luogo di culto, e discute il giornale. Ma però è senz'altro vero, io credo che lei sia d'accordo, che il nostro cattolico, il nostro soggetto di cui stiamo parlando, non era solo nella cooperativa, non era solo nella cassa rurale. Contemporaneamente, e questo limita poi il peso complessivo, perché sono sempre gli stessi. Lei è molto giovane ed è una bella cosa, io un po' meno. Io ho battuto le campagne della Brianza, della Lombardia, col professor Prodi, devo dire. Beh, adesso forse ho detto una cosa che, beh, da solo ho battuto le. Io mi ricordo che se c'era una cosa tragica, Una cosa tragica nel decennio 50 è che se io andavo a parlare di cose, chiedo scusa, se una cosa autobiografica, andavo a parlare alla sede del sindacato, vedevo quelle facce, quelle vecchiette, quei giovanotti, così. Poi mi capitava di andare alla sede delle ACLI, magari la sera dopo, io ritrovavo le stesse facce, pensate, ed erano le stesse che ascoltavano il parroco la domenica. Quindi, da più parti, capisce, c'era questo insieme di interessi. Ecco, sulla faccenda dell'esaltazione del numero, io ho detto male certamente una cosa, volevo semplicemente far presente che quando viene il momento in cui ci si conta, vedi le periferie popolare, quel numero che sorprende tutti, è un numero che invece non dovrebbe sorprendere perché per l'appunto dietro c'è questa cosa qui è questa esperienza di vita associativa, insomma, no? Che è arrivata così a ramificare, a inserirsi nel tessuto e che poi a un certo momento, quando si decide per valutazioni politiche, la conta, da appunto, non volevo costruirci sopra dei principi. Non so se ho risposto. Non vorrei illudermi adesso di essere comprensibile anche adesso, perché questo... No, ma... Sono loro che sono molto bravi. Allora, adesso viene... aspetta. No, Reberstein. Era stato scritto prima poi. Dov'è Reberstein? No, Reberstein, che è nell'ordine è scritto. Lui. Io ho ascoltato veramente con estremo interesse questa relazione, perché per me rappresentava una sollecitazione di tipo metodologico, che temo che molti di noi si scontrano, soprattutto noi italiani, con una veramente deficienza di fondo della storiografia, che proprio perché è specializzata nel taglio politico e sociale, trascura spesso e volentieri la sollecitazione economica, non perché ci siano anche le condizioni economiche da tenere presente, questo si fa, ma le motivazioni di queste strutture, le spinte, le sollecitazioni, i punti di arrivo, questi si dimenticano sempre. Credo che questo dipenda anche molto da una carenza della struttura degli studi che ci producono, questa facilità, e per cui ognuno di noi molto faticosamente deve farsi un po' le ossa da solo quest'anno. Allora io chiedo scusa se nella mia richiesta di presentazione di questo termine mi dirò un linguaggio più preciso e non tecnico, perché non sono un tecnico. Mi pare che la premessa di base della quale è partito questo termine sia fondamentale, cioè dobbiamo effettivamente fare il conto con la reale struttura economica che ha sollecitato anche la organizzazione, la presa di posizione di queste forme che abbiamo sempre considerato da un punto di vista politico, sociale. Allora, in tutta poi l'analisi che il professor Danieli ha condotto, mi è rimasto fondamentalmente però il dubbio professore, ed è questo. Cioè, indubbiamente si deve dare atto al movimento, chiamiamolo così, il movimento cattolico, di aver avuto delle buone intenzioni. Non si discutono degli obiettivi che effettivamente erano buoni, erano validi, non si discutono le persone, erano animate da uno spirito, io credo profondamente, da una religiosità eccezionale. Credo che una religiosità di un Cerutti, di un Fortuna, per ricordare degli intransigenti che in queste azioni sono fondamenti impegnate, con tutto un contesto evidentemente pedaliniano, tipico appunto di una concezione istituzionale gerarchica della Chiesa, però caratteristica, dico, dell'epoca in cui vivevano, sia una cosa alla quale si deve continuamente guardare con un profondo senso proprio di ammirazione. Però io dico che proprio per l'analisi economica questo non è sufficiente. Cioè, quello che queste persone hanno realizzato, hanno prodotto concretamente, andava al di là delle loro organizzazioni. Ecco, come hanno strutturato le loro organizzazioni? Hanno preso dei modelli prevalentemente stranieri, no? Cerutti, per esempio, selezione delle casse rurali si è rifatto abolendo già attuato in Italia da poco, recentemente, è vero che Genuti confessionalizza le casse rurali. D'altro canto, non ci si deve fermare neanche a dire, mi pare in questo senso condivido il piano di Guasco, cioè questa gente che Conti non parla della relazione di Toniolo. Non si poneva il problema di come strutturare il corporativismo, il professionale mister, il professionale semplice, accettava la direttiva e cercava la direttiva. No? Però, al di là della elaborazione dottrinale di un Toniolo o di altri sociologi cattolici, economisti cattolici italiani, le scelte che concretamente poi gli organizzatori hanno fatto sono delle scelte che si sono inserite in un progetto di sviluppo o che perlomeno lo hanno portato avanti. Io meno inconsapevolmente, questo non lo so, mi manca il metodo effettivamente di valutazione, no? Lo dico con tutta sincerità. Però prendiamo per esempio un caso, quello pure, sono le poche cose di esso, il caso qua? Il caso della campagna Veneta, che è un caso tipico di estremo, con le condizioni del contadino che ha ricordato il professor D'Arena, si ritrovano in tutta la campagna, dalla montagna alla pianura, dappertutto. Delle condizioni quindi di estrema miseria, condizioni di fame, di difficoltà di lavoro, di estrema indigenza. Ebbene, gli organizzatori cattolici si sono inseriti in questo mondo contadino estremamente colpito e hanno cercato un po' di risollevarlo, un po' perché più di tanto effettivamente non ci riusciva perché non aveva altri soldi. Ebbene, ma allora, in questa situazione, io mi dico, facendo questo e forse non spingendo un po' più in là le cose, forse avrebbero se avessero citato un altro progetto, per esempio perlomeno altri modelli di sviluppo, modelli che non avevano in testa ma che di fatto realizzavano, se di fatto si inserivano. Allora mi chiedo se facendo così, non voglio fare una sola polisse, no? E vuole essere semplicemente un tentativo di mettere. Mi chiedo se con questa valutazione effettivamente non abbiano dato ragione a chi sotto il sviluppo, e soprattutto nell'agricoltura, lo voleva come condizione essenziale di un generale sviluppo economico. Facciamo l'esempio di alcune localizzazioni molto limitate dell'industrialismo nel tempo. Il professor Bernardi ha ricordato il grosso caso di Milano, dove c'è il contadino che lascia. La fabbrica non fa l'operaio per il tempo della cosa. Ebbene, nel Veneto, nelle piccole zone di industrializzazione del Veneto che esistono, si verifica la stessa cosa. Nel periodo appunto della lavorazione, anche della agricoltura, il contadino torna. Ma non c'è solo questo. C'è un processo di maggior tentativo di legame tra mondo contadino e mondo industriale operato dalla direzione industriale. Perché quando la direzione industriale attua, per esempio, le case operate, attua gli asili infantili, attua le mense sociali, attua le cooperative, e in questo si inserisce a livello proprio di identificazione con tutte le iniziative delle organizzazioni del movimento cattolico, tant'è vero che in alcune di queste zone le cose vengono portate avanti parallelamente, cioè non c'è un'iniziativa del piccolo industriale e un'iniziativa delle organizzazioni cattoliche diversificate. Le due iniziative si incontrano. Ma allora questo cosa permette? Permette che si mantengano e arrivino alle estreme contraddizioni certe discrepanze. Le discrepanze cioè che mantengono la condizione di un certo sviluppo, soprattutto come condizione essenziale per lo sviluppo di quella parte, perché si può attingere ad un mondo in cui la manodopera è offerta largamente e può essere recepita con una remunerazione molto limitata, che il costo della manodopera è largo, è limitato e l'offerta di manodopera è molto ampia. E quindi l'incentivazione alla produttività della fabbrica, in questo senso, ne va bene. E può essere maggiormente incentivata questa produzione anche, e direi molto di più, se quelle condizioni di sottosviluppo dell'agricoltura non vengono mantenute in quelle situazioni di estrema indigenza che si trovavano, ma vengono leggermente migliorate, perché con un'iniziativa di tipo paternalistico dello sviluppo economico, di una integrazione reciproca tra campagna e attività lavorativa industriale, si prendono le punte rivendicative che potevano provenire da una situazione molto più estrema, di indigenza estrema, e che poteva portare, per esempio, a quelle sollevazioni di tipo spontaneo che abbiamo trovato, per esempio, sul trono nell'84-85, in molti della voi, e che hanno delle rivelazioni anche nel momento, no? Ecco, mi scuro un po' della tale. No, molto chiaro. La ringrazio. Ora riprendiamo il giro. Continuiamo il giro. Peter, se ne sarebbe. Vielleicht mal zur Korrektur, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie zu Beginn Ihrer Ausführung davon gesprochen, dass der Gesamtbereich der katholischen Bewegung im sozialen und wirtschaftlichen Raum vor 1914 ungefähr die Größenordnung von 300.000 Personen erreicht habe. Sie haben dann später davon gesprochen, dass ungefähr die Konsistenz dieser Bewegung verglichen mit dem Gesamtbestand etwa 10-15% betragen habe. Nun erinnere ich mich, dass in den Arbeiten von Dete etwa oder von Neute davon gesprochen wird, dass der Organisationsgrad im wirtschaftlich-sozialen Bereich vor 1914 ungefähr 1 Million betragen habe. Das ist sozusagen der große Aufschwung der organisierten Arbeiterbewegung erst während des Krieges und dann vor allem nach dem Krieg erfolgt sein, mit einem großen Aufschwung von etwa 1 Million auf 4 Millionen. Ich weiß nicht, mir scheint da ein gewisser Widerspruch zu bestehen. Wie groß ist die katholische Bewegung im sozialen wirtschaftlichen Bereich? Dunque, sostanzialmente lui dice, è una questione di fatto, se Doninelli parlava di un 300-350 mila iscritti all'organizzazione cattolica, di un 10-15%, però riferendosi ai lavori che lui ha visto di Pepe Neufeld e vedendo che questi parlano di 1 milione di organizzati in Italia in tutto, prima del 14, tutto, cioè tutte le organizzazioni di ogni tipo ideologico, se non c'è una contraddizione fra questi dati e quelli che risultano da questi lavori e quelli che sono stati esposti. Se lei può chiarire questo qua. C'è una seconda domanda. La struttura sociale del... Parlo in italiano così. Grazie. Più chiaramente. La struttura sociale di tutta la forza lavoratrice nell'ambito dell'agricoltura. Se mi ricordo bene, lei ha parlato del 80-90% che siano stati mezzadri, affettuari, contadini. Se mi ricordo bene del lavoro di Sullo Slavini sulla struttura sociale italiana, che fa anche diciamo, un discorso storico prima del secondo dopoguerra, lui dice che tutto il proletariato italiano prima della prima guerra mondiale era in circa 40-45% di tutta la forza lavorativa. E di questo 40% la maggioranza era nel campo agricolo. Così lui parla di, non so, 3 milioni, 4 milioni di braccianti che si trovavano in quel tempo. Anche qui mi pare c'è una certa contraddizione tra le cifre che lei ha detto. E poi se questa grande consistenza di questa forza lavoratrice, diciamo, dei coloni, dei affettuali, dei braccianti c'era, e c'era chiaramente una grande cifra, perché il movimento cattolico, che aveva grandi vantaggi, diciamo, di questa naturale contraddizione tra mondo socialista, che voleva il bracciantato, non il mezzario, perché il mondo il mondo cattolico non è riuscito di inserirsi in maniera più efficace, più grande in quel mondo agricolo così tradizionale, così povero, ma anche così propizio per, su tutti gli aspetti del movimento cattolico. Noi abbiamo sentito l'altro ieri quella lettera di Meda a Rampolla del 1902, dove dice: noi stiamo perdendo il mondo del lavoro ai socialisti. Sì. Quello è il momento del quale parliamo in questo momento. Grazie. Ma allora dovrei... Cioè, posso rispondere a lei, Bersaglia, a quest'ultimo intervento? Forse, sì, sì, mi va benissimo. Perché sono da cose di fatto. Certo, certo. Ecco, la risposta che lei mi sollecita è esige un discorso un po' ampio. Cercherò di essere breve, perché invece il tempo non è. Vede, qui direi che ci sono alcuni dubbi che riguardano i nostri studi di storia economica, certamente insufficienti, come lei ha ricordato, in queste specifiche direzioni. Direi che soprattutto c'è una cosa che però da un punto di vista metodologico io personalmente non accetto. Non accetto perché non lo ritengo valido dal punto di vista del lavoro, e perché non ne trovo una conferma poi al momento della ricostruzione. E il punto è l'esistenza del modello di sviluppo. Cioè, ragioniamo, come dire, al di fuori così di tutte le disquisizioni eminentemente tecniche che si fanno su questo punto. Si può dire, alla luce delle nostre ricostruzioni, delle nostre conoscenze, che dall'80, dalla crisi agraria, dal protezionismo, dall'87, quindi nell'ultimo decennio dell'Ottocento, e nel primo quindicennio del Novecento, quando in pratica si forma la base industriale italiana, possiamo noi dire che esista quello che, se le parole hanno un significato, vorrebbe intendere un razionale, organico disegno di un gruppo sociale dominante e che realizza un cambiamento della struttura economica, prevalentemente agricola prima, industriale dopo. Ora, l'esistenza di tutto questo che cosa presuppone? Presuppone, a parte i risultati in termini strutturali, ma presuppone, per esempio, una cultura, presuppone una capacità tecnica ed imprenditoriale per fare cose di questo tipo, e presuppone anche una certa organicità, per esempio, nei rapporti sociali, nelle relazioni sociali che nascono in conseguenza di questo disegno. Ora, può darsi che tra 5 anni, voglio dire tra 10 anni, quando i nostri studi si saranno ulteriormente sviluppati in questa direzione, tutto questo possa essere accettato. Io però sono di questa opinione, che se uno non parte col piede, per me sbagliato, cioè prima ha in testa chiaramente un certo schema interpretativo e poi pretende di verificarlo, e se si mette invece, come dire, a vedere concretamente cosa è accaduto, non riesce a trovare nel comportamento della classe dirigente italiana in campo economico, chiedo scusa poi, che cos'è la classe dirigente italiana in campo economico? Sono alcuni uomini, perché i veneti sono abbagliati da Alessandro Rosse. D'accordo, in Lombardia si può citare qualche grande nome che appunto sembra confermare il dubbio. Operatori economici di grande livello che operano nel deserto praticamente, in una situazione di disinteresse generale alla reale trasformazione, e che realizzano cose che emergono ancora di più perché sono collocati nel deserto. Alessandro Rossi nel Veneto, e che so, Pirelli, Falk, e poi dopo, quando uno si mette lì, non riesce ad arrivare ai nomi che stanno su tutte e due le mani, perché quando ha messo insieme appunto questi nomi di imprenditori in senso moderno, si accorge che manca dietro a questo disegno, a sostanziarlo, ripeto, a prescindere dai risultati, perché i risultati mostrano il permanere di squilibri e di contraddizioni tali che fanno piuttosto pensare ad un qualche cosa che è andato avanti, per esempio per l'operare di fattori esterni. Io qui adesso non faccio più lo storico, mi permetto di fare riferimento alla realtà degli ultimi decenni. Ma chi ha il coraggio di sostenere che quello che è avvenuto nella struttura economica italiana dal 50 in avanti, 1950, sia l'opera di un razionale disegno, eccetera, eccetera? È l'opera al 70% dell'operare di fattori esterni di natura internazionale. Essendo questa la nostra dal 700 un'economia di trasformazione, è un'economia che risente pesantissimamente dei condizionamenti esterni. Cioè, in pratica, se il mercato e un certo tipo di domanda tira, si muovono certe cose, se non tira, casca tutto. Ed è quello che è accaduto recentissimamente. Quello che è accaduto tra il 96 e il 906-907, per non arrivare al 14, è chiarissimamente la risposta ad una sollecitazione di natura esterna. Chiedo scusa, e poi ci sono alcune cose. Così, pura risposta ad una sollecitazione esterna non voluta, che l'aspirazione di questo mondo, che avrebbe concepito questo disegno di sviluppo capitalistico, eccetera, appena può blocca tutto. Lo fossilizza, lo cristallizza nel ventennio, no? Per cui da un punto di vista economico si vede che semmai è la politica che dà certe indicazioni, ma non è l'operare, non è l'agire dell'operatore economico. Guardi che da questo punto di vista qui a noi sfuggono molte cose, e lei ha detto bene, perché è tutta la nostra cultura che non ci aiuta. Ma guardi che usare una terminologia come quella di modello o progetto di sviluppo vuol dire mettere in atto, per esempio dal punto di vista tecnologico, scientifico-tecnologico, il mondo tedesco da questo punto di vista qui è la dimostrazione. Ma prima che si mettessero in moto certi risultati economici, si è messo in moto un atteggiamento culturale, un atteggiamento che si è tradotto poi anche nelle strutture scolastiche. Basti pensare che questo è un mondo che cosa pretendeva? L'industrializzazione con l'analfabetismo? Ma chi può pensare? L'hanno pensato, allora erano prima ancora erano dei pazzi. Pensare uno sviluppo economico, un progetto di sviluppo in un contesto, come dire, tecnologicamente arretrato, perché non bastava la manovalanza. Non prospettarsi questo dimostra l'inesistenza del progetto. Questo è un punto. E vale ancora per il decennio 50, perché noi siamo forse l'unico paese del mondo che ha pensato ad un progetto di sviluppo economico, non l'ha pensato, sostengo io, tant'è vero che non ha mosso un dito per modificare la struttura scolastica. Non ha mosso un dito. Neanche coloro che sarebbero stati i protagonisti di questo progetto di trasformazione capitalistica, industriale, eccetera, eccetera. Quindi nel suo dubbio, secondo me, cade il punto di sostegno, cioè che sia esistito questo e che non sia avvenuto invece, in fondo, il protezionismo dell'87 è una difesa di fronte a un fatto di carattere internazionale. Il protezionismo dopo l'87 a che cosa obbliga? Obbliga un mercato che è privo di certi strumenti ad una produzione locale degli stessi. Ma il dire che questo abbia significato veramente una vocazione, una scelta consapevole, questo sembra del tutto fuori luogo. Ripeto, può darsi che io sbagli, ma soprattutto bisogna dire, i nostri studi non ci permettono di queste sicurezze che non siano le sicurezze di schemi precostituiti. Per cui assolutamente bisogna dimostrare queste cose. L'esistenza di un modello di sviluppo capitalistico in Italia nel periodo 1896-1914. Quindi la non esistenza, la complessità d'altra parte, che non c'è, la complessità e i fattori richiamati che non sono presenti se non parzialmente. E poi mi viene anche un dubbio, anch'io ragiono un momento coi sé, ma è pensabile che potessero essere i cattolici, con la loro cultura rurale assistenziale, ad essere, come dire, in qualche modo ideatori di modelli di sviluppo, frase enorme, gigantesca, spaventosa, no? Di modelli di sviluppo laddove al massimo riuscivano ad essere che cosa? Modestissimi sollecitatori di miglioramenti di tecniche esistenti. Il suo parroco del Veneto, che insegnava a zappare il grano turco 5 volte invece che 3, dava il massimo di modello di sviluppo. Dice che se lo zappi 5 volte ti viene il grano turco un po' meglio. No, è tutto qui. D'altra parte potevano, come base culturale, data la complessità, io credo che quando noi ci mettiamo in questa prospettiva dimentichiamo che per essere protagonisti di queste cose ci vuole la rivoluzione scientifica, ci vuole tutto quello che ci è mancato nei secoli precedenti. I cattolici potevano, potevano essere quelli che rifiutavano. Ma io mi domando a questo punto qui, per stare alla storia, perché non hanno rifiutato? Non hanno rifiutato perché la sollecitazione solidaristica, come dire, beneficenziale, con tutti i calcoli che erano connessi, anche di sfruttamento di queste situazioni polemicamente, li hanno spinti ad entrare in queste cose. Io arriverei al punto di dire che non potevano, e mi viene anche dubbio che non dovevano, perché siamo dentro in un processo storico, quello di trasformazione, eccetera, eccetera, dal Settecento in avanti, che ha in altri ambienti ben altri protagonisti. Semmai noi dobbiamo rilevare che questi protagonisti non ci sono in Italia. Una borghesia capace, no? E non una borghesia speculativa solo, una borghesia imprenditoriale, industriale, che noi non abbiamo, lo abbiamo solo così, per tenui accenni qua e là. Quindi, può anche, anzi, lei non sarà certamente d'accordo, insomma, però io ritengo che il modo corretto di muoversi al momento, sia questo e non altro, cioè di chi cerca, come dire, di cogliere quello che effettivamente è accaduto senza la preoccupazione di individuare, e anzi è propenso a ritenere che questo non sia avvenuto, che questo non fosse neanche possibile. Vede, io le dirò una cosa, ma questo resti così, in realtà, adesso siamo nel 75, io ho ancora dei dubbi che esista adesso, se li guardo come si comportano questi operatori economici. Lei ha di fronte un operatore economico classico delle aree settentrionali, che dal Settecento in poi, nei momenti di difficoltà, ha sempre fatto due cose, ha esportato capitali e ha licenziato manodopera. Sono due secoli che fanno solo questo. E lei questi li chiama protagonisti di un processo. No, il processo c'è, ma c'è per un cumulo di altri fattori. L'ultimo sono loro. E quindi non gli imputerei questa grande capacità di razionalizzare la trasformazione. Andiamo fuori, naturalmente, e chiedo tu, ma è un invito a nozze, come si dice, ma uno se queste cose. Andiamo ancora. Ecco, per i dubbi che sono stati espressi di natura quantitativa, insomma. Il Papa in quel lavoro sulla Confederazione Generale del Lavoro, no? Quei due volumi, ecco, che ha pubblicato, si è avvalso delle statistiche, in pratica dello stesso materiale che ho utilizzato io, ma soprattutto si è avvalso delle rilevazioni compiute dalla Confederazione Generale del Lavoro. Cioè, siccome la Confederazione Generale del Lavoro, come tutte le organizzazioni, congressualmente doveva indicare il numero degli associati, no? Quindi nelle relazioni di Rinaldo Rigola, quelle che 906, 908 e 11, queste statistiche sono presenti, insomma. Queste statistiche di Rigola però non coincidono con quelle dell'ufficio del Ministero di Agricoltura e com'è. Non coincidono. Giustamente prendo quelli dell'ufficio del lavoro. E quelli della Confederazione Generale del Lavoro, perché il suo lavoro era sul materiale della Confederazione Generale del Lavoro. Quindi i due dati non coincidono e danno certamente luogo a queste sfasature. Lei sa che tra l'altro noi non abbiamo possibilità, globalmente parlando, per tutto il territorio nazionale, di affidarci alle statistiche, per esempio, di Cessimene. Procacci ha tentato in quel lavoro, no, sulla classe operaia italiana all'inizio del secolo XX, ed è riuscito, ma è riuscito solo per un momento, per un periodo molto ristretto, a dare una specie così di fotografia, no, della struttura della manodopera in Italia. Però lui stesso ogni tre righe ripete che si tratta di un tentativo che ha bisogno di essere confortato da ricerche di carattere locale. Solo le ricerche di carattere locale, poi sintetizzate, naturalmente ci permetteranno di dire se questi dati... Per quel che riguarda il silos d'Abini e la contraddizione, vedi, qui c'è un problema, insomma. Il silos d'Abini ha cercato, non da sociologo, da economista, insomma, ma usando certi strumenti, certe cose, ha cercato di dar luogo a certi tipi di classificazione. La mia classificazione non coincide con la sua, perché la sua classificazione tendeva a mettere insieme tutti coloro che si trovano in posizione dipendente economicamente. Io invece sono stato preoccupato di distinguere nettamente il salariato puro, cioè il lavoratore dell'agricoltura, praticamente esistente solo nell'area irrigua padana, dipendente dalla cascina, che era pagato a salario, inizialmente in natura, poi in natura e in denaro, come figura di lavoratore di lavoratore dipendente, così come lo intendiamo oggi, come un lavoratore dell'industria, Non a caso nelle fonti dell'Ottocento questo lavoratore è chiamato l'operaio dell'agricoltura, perché è considerato un operaio, cioè uno che ha un rapporto che dura un anno, un certo numero di mesi, è salariato fisso, è salariato obbligato. Tutte le altre figure sono figure di lavoratori della terra che hanno dei rapporti di natura diversa, che sono in qualche modo rapporti di compartecipazione al prodotto. La grande distinzione è questa: il salario pagato prescinde dal risultato del lavoro. Quindi il salariato della Valle Padana era pagato in grano turco, era pagato in grano, era pagato in moneta, a giornata, a mese, annualmente, comunque andassero le cose. Tutte le altre figure invece compartecipano dei risultati, parzialmente, a metà, a secondo delle zone, a secondo dei rapporti. E secondo me queste configurano quel 90% e forse anche più di lavoratori della terra il cui grado di insicurezza è maggiore che non la prima categoria. Perché la prima categoria non ha niente da perdere nella lotta. La prima categoria è capace di una mobilità che la seconda non è capace, di cui la seconda non è capace. La mobilità lei la trova nel salariato. I braccianti si muovono, girano, ma il mezzadro non si muove. Il colono in genere non si muove. Il colono nasce e muore nel proprio paese, nella propria comunità, e quindi deve fare i conti con un mercato del lavoro che gli è sfavorevole, perché è bloccato. Laddove invece il salariato va alla ricerca delle occasioni. È la costruzione della ferrovia, è un'opera di bonifica. E allora la sua mobilità, aumentando, gli dà anche delle possibilità di difesa, insomma. Io non ricordo più dove sta scritto che quando si trattava di dare in sposa la propria figlia, tra un salariato e un mezzadro, in genere insomma, si preferiva un buon salariato, come dire, un uomo come dire, che avesse una certa... Il mezzadro, soprattutto il mezzadro delle zone povere, era veramente un poveretto, insomma, era in condizioni, bastava una fallanza di raccolto, bastava una piccola disgrazia, insomma. E nonostante figurasse come un compartecipe, giuridicamente un socio del proprietario, giuridicamente, ma sostanzialmente un poveretto che viveva la giornata, insomma. 3 mesi prima del nuovo raccolto non aveva più niente, il proprietario doveva anticipargli tutto, e questo per le generazioni, legato da debiti, in molti casi che duravano generazioni, che si estinguevano solo per casi di liberalità. In morte il proprietario liberava i propri coloni da tutti i debiti che avevano, che naturalmente si ricostituivano l'anno dopo, per cui non c'era pericolo, insomma. Come la liberazione degli schiavi. Perfetto, restava praticamente la stessa cosa. L'ultima cosa, perché, se ho capito bene, i cattolici non sono riusciti ad inserirsi tra il mondo salariato. Eh? Ecco. Come il mondo di questo, diciamo, di questo gruppo che lei ha ancora descritto? No, al contrario, è questo che è avvenuto. Le organizzazioni cattoliche sono più presenti, anzi sono massicciamente presenti, sì, nel settore... Bene, insomma, diciamo, la presenza totale del movimento cattolico, economico e sociale, è molto debole. No? Certamente. Tutta la, diciamo, certo, ma allora, sì, ho capito. E allora questo si ricollega allo stato sociale, al modo di pensare, alla disorganizzazione più generale. La partecipazione a questi fatti qui, a fatti associativi, è modesta, generalmente parlando. I cattolici dentro a questa partecipazione associativa modesta si portano via una fetta, che è la fetta del mondo che è più affine, il mondo più del piccolo proprietario, del mezzato, del colono, e resta fuori l'altra fetta. Per cui in termini poi di proporzione cosa accade? Accade ad esempio che l'organizzazione delle leghe socialiste dei salariati, da un punto di vista di efficacia politica, ne hanno molto di più che non queste organizzazioni cattoliche, che operano in strutture sociali che più difficilmente combattono, che più difficilmente si muovono per la natura stessa loro. Non so se sono riuscito. Come? Anche, indubbiamente, perché ci sono obiettivi facilmente proponibili agli uni e difficili. I socialisti al mezzadro non avevano niente da proporre, se non di attendere che la rovina dell'impresa mezzadrile li trasformasse in salariati, cosa che i mezzadri non hanno mai gradito. Semmai si aspettavano un passaggio in posizione proprietaria e in posizione salariale. Abbiamo solo più mezz'ora di tempo, in questo momento. È poco. Quindi, è una colpa mia, però. No, sono un po'. Anzi, è stato molto interessante, però richiamo, purtroppo, il moderatore deve fare questo mestiere noioso di richiamare i tempi. E sono iscritti a parlare Resken, Corsini e eventualmente Prodi. Grazie. Allora, Repkin ha pronunciato il suo abrenunzio e allora, Corsini. Corsini. Volevo solo chiedere a Corsini e poi vai. No, prima Corsini, no. Ci è risulta dalle sue ricerche che anche in altre regioni d'Italia si sia avverato un processo analogo a quello che si è avverato qui, specialmente nel Trentino, nell'Alto Adige, nel Tirolo, e penso anche, basando nello che si è già affermato, anche in altre regioni che sono rimaste più a lungo, che sono ancora sopravvissute, per esempio nel Veneto, penso, vero? E cioè mi riferisco soltanto al periodo da 70 al 14 per non dare un'accentuazione acquatistica che potrebbe avere anche altri. Ad una fase in cui il movimento, specialmente cooperativo in generale, quello di consumo e poi anche quello creditizio, è stato promosso e attuato da cattolici, una fase caratterizzata da una molteplicità di iniziative spontanee e cementata soltanto da un'unità di natura spirituale, di natura polare religiosa, è seguita poi un'altra fase in cui si è data anche una struttura organizzativa estremamente più precisa e più compatta e più solida. Una seconda fase in cui si è creata una fitta rete, una fitta trama di collegamenti tra i vari centri cooperativi iniziali, e si è creata una trama con uno scopo contemporaneamente difensivo e concorrenziale con altre iniziative provenienti da altri movimenti, da altre correnti di natura. Questa seconda fase, quando è giunta ad uno stato di maturazione vero sufficiente, ha creato, mi si consenta di dire anche se i termini possono sembrare contraddittori, sicuramente un capitalismo cooperativo, un vero e proprio capitalismo cooperativo di natura commerciale e di natura finanziaria, ristretto in poche mani nella organizzazione, vengono individuati ceti, analogamente a quanto era avvenuto e quanto avveniva ancora nel mondo della borghesia liberale, specialmente con l'organizzazione delle banche e degli istituti. Non so se un fenomeno analogo si sia manifestato anche, forse per mancanza di mezzi, forse per intuizioni e interessi diversi anche nel campo socialista. Ma è certo che sulla scorta di una risultanza di questa indagine, che io non conosco se sia stata fatta anche al di fuori di questo mondo rispetto al quale ho accennato prima, si potrebbe trarre una conseguenza interessante per sapere quale ruolo ha giocato, oltre che sul piano sociale ed economico, anche sul piano strettamente politico, la formazione di questo capitalismo cooperativo. Quale ruolo, se sia stato un ruolo magari di conservazione politica? Per esempio, non c'è nessun dubbio che nel Tirolo la frattura di questa, di questo cattolicesimo, di questo corrente dei cattolici conservatori è avvenuta proprio da parte dei cristiani sociali, specialmente del Guega, perché anche erano stati qui nel Tirolo e anche in Alto Adige, proprio con la sollecitazione presso il mondo contadino di organizzazioni e di unioni diverse da quelle precedenti. Tanto è vero che la grande paura che si era creata proprio qui nei cattolici conservativi del Tirolo era stato perché una delle prime azioni fatte dai cristiani sociali nel Tirolo e anche nella quale c'era quella di aver organizzato una lega di contadini che mi pare in poco tempo aveva raggiunto 5.000 iscritti e che si poteva in un certo senso con un contraltare politico ma anche un contraltare organizzativo al vecchio movimento cattolico cooperativo di consumo e creditizio organizzato dai conservativi. Ecco quello che sono. Vuoi rispondere subito? Ma forse posso sentire le cose. Vanno insieme. Così proprio ha ha messo il dito su quel punto che io volevo domandare, perché mi sembrava interessante e necessario adesso di ritornare un po' al nostro confronto fra la situazione in Italia, in Austria e in Germania. Io volevo proprio domandare se non ci fosse qui qualcuno che parlasse del Trentino, che è specialmente interessante perché era italiano, però socialmente situazioni non completamente analoghe come in Austria, ma anche simili. Per esempio, credo che nel Trentino non esiste né la mezzatrice, non esisteva nel periodo austriaco la mezzatrice, sì, ma credo, sì, che anche nel Trentino, certamente nel Tirolo, la maggior parte dei contadini sono contadini proprietari. Anche qui c'è sempre il grande problema quando si traduce il congresso italiano-austriaco, si traduce contadini in Bauern, invece il Bauer è una cosa molto diversa dal mezzadro, dal colono e naturalmente il bracciante, che si dovrebbe tradurre col Knecht, che però è tutta una situazione diversa. Ritornare anche, vorrei anche riferirmi a una cosa che ha chiesto il signor Peters nel domandare come, perché mi sembra, forse sbaglio, mi corregga per favore, che lei ha detto, se ho ben capito, che i cattolici entrano nel mondo dei mezzadri e dei coloni e non dei braccianti. Ma come è, per esempio, nel antico stato della Chiesa, nell'Emilia Romagna, nella Toscana, dove anche, mi pare che anche il mezzadro, anche il colono viene conquistato dai socialisti, non tanto dai cattolici, come avviene nel Veneto, nella Lombardia, nel Piemonte. Ora, qui sì, mi pare che si veda che ci sono certe tradizioni politiche, perché in Umbria, per esempio, anche diciamo, i ceti agricoli presi tutti insieme vanno socialisti o poi comunisti adesso, eccetera. E non c'è questa affermazione del movimento cattolico saldissimo come avviene nell'Austria e anche in gran parte della Germania. Ora, molte cose di quelle che lei ha detto mi ricordavano quello che io avevo detto, lei non c'era, credo, nel mio lunedì scorso, cioè che la insicurezza, per esempio, c'è nel mondo agricolo anche in Austria, appunto perché sono diventati liberi, eccetera. Anche loro vivono delle volte proprio sul livello del minimo di esistenza, veramente, perché nella nuova economia di mercato il contadino liberato politicamente, ma non socialmente, buttato fuori in quel vento freddo del capitalismo, si trova insicuro. Va bene che in Austria e anche più ancora in Germania il fenomeno dell'analfabetismo non esiste, ma ciò nonostante è il parroco, è l'unico uomo colto nel villaggio, è l'unico uomo che può organizzare, che può fare una Raiffeisenkasse, una cassa rurale, un'associazione, e lì il clero aveva una forza enorme di organizzazione, mentre i socialisti non sono mai arrivati, anche perché il contadino si sente proprietario ed è proprietario. E credo che qui ci sia veramente una grande differenza fra l'Italia e il mondo, diciamolo, il mondo germanico. E qui sarebbe appunto interessante questa associazione che lei ha nominato di Tirol Bauernbund, è però questa crisi sociale, è però un'associazione mantenuta, sorretta maggiormente dai contadini proprietari, o come voi dite, agricoltori diretti. Questi cristiano sociali non sono braccianti. Con l'apporto dei giovani padri, Sì, i giovani cattolici. In al vecchio partito cattolico conservatore. Sì, perché il vecchio partito che aveva sviluppato tutta l'organizzazione cooperativistica precedente. Sì, ma non si è occupato tanto del singolo contadino, piuttosto dei vecchi, il vecchio partito, i vecchi conservatori, solo appunto erano interessati di fare leggere, consultare o far votare a deputato, ma nell'organizzazione diciamo non c'era tanta attività. Tra le prime organizzazioni cooperative, sia di consumo sia di credito, erano provenienti dal Partito Cattolico Conservativo. Sì, ma era piuttosto bene una cosa di assistenza patronale. Sì, diciamo paternalistica, signori. Attivare veramente il contadino, questa sostanza è più una differenza, credo che sia più una differenza fra generazioni, fra metodi, modi di proseguire, che non dal punto di vista, diciamo, una differenza di indirizzo. Il professor Prodi vorrebbe adesso aggiungere poi una parola proprio in riferimento a questa discussione. Due problemi. Uno, ovviamente questa discussione invece riguarda l'accenno che faceva passare all'inizio su proposte di nuovi temi su cui ci potremo poi trattenere mangiando, quindi non è un problema. Sulla relazione tra i neri, io vorrei richiamare un problema molto particolare, però mi sembra che almeno per quanto riguarda la mia esperienza, e qui è molto importante l'accenno che faceva Zanelli alla diversa collocazione regionale, quindi io sono emiliano, alla proprietà ecclesiastica. Questo è un discorso che in Italia è importante, cioè anche i nostri parroci si reggevano sulla mezzadria, cioè qui vorrei sentire anche i colleghi tedeschi, qual è la distinzione, proprio per rimanere attaccati, come giustamente dice Zanelli, alle piccole cose, cioè a non vedere i grandi quadri, i modelli, eccetera, eccetera. Noi ci troviamo però di fronte a delle situazioni concrete in cui il parroco a un certo punto non va all'osteria perché all'osteria ci sono i suoi mezzari, cioè non è un problema, ci sono effettivamente delle situazioni che il problema del beneficio parrocchiale è un problema estremamente concreto e che sulle nostre campagne emiliane ha pesato parecchio, insomma, ecco, e ha portato anche, credo, ovviamente a posizioni di conflittualità che hanno lasciato aperta la porta allo sviluppo delle cooperative sociali, del movimento rosso, il mondo estremamente. Davide Scarf, like für die Deutschen übersetzen, das ist sehr interessant. Herr Prodi sagt, er stamme aus der Emilia, also alter Kirchenstaat, und dort lebt der Pfarrer von seinem Beneficium, das ebenfalls als Halbpacht vergeben wird. Das heißt also, er steht dem Problem der Mesadria ganz anders gegenüber, weil es gleich dann von dem so da ist. Questo è un punto, e forse questo può capire, può far capire poi come, specialmente in un periodo successivo, non dico ci sia stata una strumentalizzazione di queste associazioni nate in funzione di un modello di sviluppo capitalistico, ma certamente un tipo di utilizzazione o tentativi di strumentalizzazione non proprio coerenti, diciamo, con quelle che sono le radici popolari del fenomeno. Ma questo, giustamente Daniele Portevallo mi diceva, è soprattutto nel periodo successivo, cioè soprattutto riguarda la fase dopo la Prima Guerra Mondiale. Secondo il primo accenno, come dicevo, si parlerà poi a tavola, riguarda la proposta di uno studio sul tentativo internazionale cristiana nella crisi tra le due guerre. È un discorso che si era fatto l'anno scorso col professor Repkin e sul quale vorrei sentire anche i giovani colleghi. colleghi, eccetera, era di tradurre, per esempio, il nostro discorso generale sul movimento tedesco, cattolico tedesco e italiano, in, per esempio, alcune indagini di tipo biografico, cioè le biografie parallele, per esempio, di Adenauer e di De Gasperi, possono servire o no per capire certi tipi di nodi del nostro cattolicesimo? Era stato un problema che avevamo posto l'anno scorso, insomma, ecco. Cioè, siccome questa settimana abbiamo affrontato temi enormi, ecco, se era possibile prevedere in futuro la possibilità di tagli che possano andare più in profondità. Limitando dei limitanti, perché anzi mi riproveravo che mi era sfuggito il nome di De Gasperi, ho fatto alcuni nomi, non ho fatto quello di De Gasperi. Va bene, non so. Allora, il professor Rettig, che ha rinunciato, forse c'è ancora 5 minuti. Yeah. Ich wollte auf zwei Dinge aufmerksam machen. In Deutschland, oder auf Ihren Punkt 4, was sind die Forschungsaufgaben eigentlich? Ihr Ziel ist, den Menschen in seinem ganz konkreten und realen, in seinem konkreten und realen Leben ganz unten möglichst genau und exakt kennenzulernen. Im Zeitalter, im 19. und 20., frühen 20. Jahrhundert. In Deutschland gibt es über diese Dinge seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine ausgebreitete Literatur mit hervorragenden Ergebnissen, mit Umfragen, mit Enqueten und so fort, nicht nur vom Verein für Sozialpolitik, sondern von einer ganzen Reihe von Einzelnen oder Institutionen übernommen, unternommen, die zwar in den letzten Jahren, als bei uns Sozialgeschichte eine gewisse Mode geworden ist, wenig benutzt werden, die aber ihren Wert haben. Das ist das eine. Das andere, es gibt in Deutschland etwa schon von der Thyssen-Stiftung finanziert, seit 3 Jahren, eine sehr gute Untersuchung über die Veränderungen der Nahrungsgewohnheiten unter der Industrialisierung von Biegelmann und Teuteberg herausgegeben. Gibt es ähnliche Forschungen in Italien? Und jetzt das Letzte. Bei diesem Buch kam es nicht nur auf die Statistiken des Fleischkonsums an, sondern eine der wesentlichsten Quellen sind die Kochbücher gewesen. Kochbücher vom 18. Jahrhundert bis heute, und zwar nicht nur fürs Bürgertum, sondern für den Proletarier. Und dort kann man nämlich sehen, sozialistische und nicht-sozialistische, wie etwa sozialistische Kochbuchliteratur die Sozialdemokraten, die Frau des Sozialdemokraten, ihr beibringen will, wie wirtschaftet man, wie führt man einen Haushalt, wie kocht man. Es sind nicht nur Rezepte, sondern gesamte Haushaltsführung. Und ich möchte dann für die Sozialgeschichte noch auf eine andere Quelle hinweisen, die meines Wissens bisher noch überhaupt nicht benutzt ist und hervorragenden Aufschluss über die Normen gibt. Das sind die Anstandsbücher. Es gibt eine breite Literatur seit dem 19. Jahrhundert, in denen in Anstandsbüchern jungen oder alten Menschen gesagt wird, so oder so muss man sich benehmen. Und in diesen Anstandsbüchern steckt eine Fülle von sozialen Normen, von Normen des menschlichen Verhaltens, die viel direkter über das, was als Leitvorstellung vorhanden war, Aufschluss geben als die theoretischen Traktate. Ich will es Ihnen an einem einzigen Beispiel nur demonstrieren. Ich besitze selbst von einer verstorbenen Tante ein solches kleines Büchlein Anfang der 90er Jahre aus der Schweiz. Jetzt kommen wir also wieder auf die Bedeutung der Schweizer Kleinliteratur. Darin steht, der Mensch muss, der gebildete Mensch, das ist also für höheres Bürgertum, muss mindestens alle 14 Tage sein Hemd wechseln. Ja, das führte ich einmal meinen Kindern vorgelesen, die gelacht haben. Da ist mir klar geworden, dass man an diesen Dingen viel mehr demonstrieren könnte, wenn man diese Literatur einmal unter diesem Aspekt des Verhaltens aufarbeiten würde. Es ist ja letzten Endes eine Art Verhaltensforschung. Das heißt also, das, was die Biologen oder die Zoologen auch sagen, Nitsch gemacht, der macht allerdings mehr, glaube ich, von der Theorie her. Ich kenne die Arbeiten von Herrn Nitschke, dass man diese Dinge mit hinzunimmt. Nun so kommen es ein paar Tradure, Anstandsregeln, Anstandsbücher. Ma io pensavo Galatei. Due cose. Prima, nella Germania dell'Ottocento esiste una grossa letteratura del campo socio-economico sulle condizioni di vivere, eccetera, eccetera, che sono meno usati e non sono molto fruttati, ma esistono e dovrebbero essere analizzati. La mia domanda: esiste anche una letteratura analoga in Italia? Seconda, si deve analizzare anche per capire meglio la vita concreta da basso, una letteratura come libri di cucina o Galatea, vale per privilegiare, perché in questi libri si ha le norme si esprimono come dovrete vivere, come dovrete vivere, e si vede anche come non vive. In Germania ci sono molti di questi libri di cucina anche per le mogli delle operai, la parte socialista, eccetera. Questo è naturalmente interessante per avere un'idea delle classi povere, e ci sono adesso degli studi in una grande impresa della Thyssen, della fondazione Thyssen dell'Ottocento, ricerche dell'Ottocento, anche per esempio sul consumo della carne, sui modi di mangiare, delle classi, per esempio del Ruhrgebiet, dei lavoratori, eccetera. Posso rispondere? Ecco, sarò anche molto breve, ripeto il ringraziamento per gli interventi e le occasioni che sono offerte di precisazione. Ecco, al professor Corsini e anche al professor Bartosca devo dire che in pratica se le nostre conoscenze di storia economica e sociale, insomma per il periodo considerato, sono deboli, nel campo della storia della cooperazione sono quasi inesistenti. Abbiamo così cose di carattere celebrativo sostanzialmente, ma non ricostruzioni vere e proprie, e quindi impediscono di dare una risposta sicura, insomma, ai quesiti che sono stati posti. Io direi che per quel che so del Trentino, che ho potuto leggere e conoscere, e qui la cooperazione assume un rilievo e una forza anche in termini finanziari, data il generale contesto agricolo che permane fino a tempi vicinissimi, fino a quelli presenti in pratica. Un'esperienza come quella trentina non sembra ripetuta nell'area italiana. Io parlo dell'area che conosco, dell'area italiana, perché anche laddove esperienze cooperative molto intense sono state fatte, non hanno quel carattere di organicità, no? di costruzione a più piani e collegamenti, insomma, che hanno certamente avuto nell'ambiente trentino. Quindi direi è eccezionale, così come sembra eccezionale, ma ripeto con tutti i limiti e tutte le cautele derivanti dalla non conoscenza o da una conoscenza così superficiale, sembra anche peculiare del Trentino quell'evoluzione interna che io per esempio per l'ambiente lombardo non conosco, neanche per l'ambiente piemontese, insomma, no? I conflitti derivanti da posizioni che devono ancora essere ricostruite, perché non possono essere contrapposizioni tecniche sul modo di intendere la cooperazione, ma per il risvolto politico che ha la base cooperativistica. Ecco, ripeto, su questi ci sono solo dei punti di domanda, non ci sono, almeno per quel che mi riguarda, delle risposte. Resta ancora quell'altra questione che merita certamente un grande approfondimento, e che la geografia, diciamo così, della presenza delle organizzazioni cattoliche, sia la geografia in senso stretto nell'ambito della superficie del territorio nazionale, sia all'interno dei gruppi professionali, delle categorie sociali. Non c'è dubbio che, dati alla mano, i pochi dati alla mano, si può dire che c'è un'assonanza dottrinale, prima ancora che di fatto, tra le organizzazioni cattoliche e il mondo della piccola proprietà, il mondo mezzadrile, il mondo colonico, no? E non c'è invece questa simpatia, questa assonanza di natura dottrinale tra l'orientamento dei cattolici e le esigenze, le istanze del mondo dei salariati, per il quale gli obiettivi erano di miglioramento nel rapporto di lavoro. Mentre invece per le altre categorie il miglioramento è relativamente un obiettivo, in fondo il vero obiettivo è il passaggio alla proprietà, no? Dalla posizione mezzadrile o colonica alla posizione proprietaria. Naturalmente ci sono delle eccezioni, le eccezioni citate di una presenza socialista tra i mezzadri toscani e, perché no, una presenza cattolica tra i salariati del Cremonese, che Miglioli prepara la sua azione che poi sbocca, no, nel 18 e nel 19 successivamente, ma che anticipa negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale, già con una penetrazione, proponendo lo scardinamento dell'azienda capitalistica, cioè la sostituzione dell'imprenditore con un soggetto collettivo che dovrebbe gestire la cascina, no? Al posto dell'imprenditore, degradato a consulente tecnico, no? della cascina, dell'attività economica. Quindi ci sono delle forti eccezioni. A lei, professore, devo dire che purtroppo le fonti, il materiale, la letteratura sul tema generale, affascinante, trovate condizioni di vita, è affascinante perché in fondo riassume tutta l'attività economica, no? Essendo l'attività economica sfociante nel modo di vivere, insomma. Ecco, noi materiali di questo tipo ne abbiamo, ma sono molto scarsi, sia di tipo quantitativo. Io personalmente ho fatto una ricerca che ho pubblicato sui consumi a Milano nell'Ottocento, quindi all'interno della cinta daziaria, no? Del comune di Milano, quindi un grande comune, ma rilevazioni statistiche che sono eccezionali rispetto alla media, però di fronte a problemi come lei citava, il calcolo del consumo della carne, bisogna praticamente accontentarsi per le note ragioni anche statistiche, perché quando si rileva l'entrata di un certo quantitativo, dopo la sua distribuzione, cioè c'era chi mangiava carne tutti i giorni, come capita, e c'era chi probabilmente la vedeva solo a Natale. Riuscire a stabilire delle medie è praticamente impossibile. Quindi ci sono delle difficoltà tecniche, ma c'è anche per il nostro ambiente una scarsità veramente preoccupante di materiale specifico su queste cose, proprio del tempo, come interesse. Certo. Insomma. Sul finire dell'Ottocento, ecco, ci sono nate delle ricerche sull'alimentazione. Il gruppo Niceforo, Renda, questa gente, Colaianni, ecco, hanno tentato di valutare il tenore di vita degli italiani e hanno anche pubblicato queste cose, ma sono così isolati, insomma, ecco, non c'è dietro il fondo, anche i manuali di cucina. I manuali di cucina riflettono il modo di cucinare di un gruppo tremendamente. In Germania esistono anche libri di cucini per l'operaio, eccetera. Anche per gli altri. Non volevo citare una cosa sola, il professore negli anni 60, 1960 e 70, una scrittura di opere letterarie per il popolo, i titoli delle turiere popolari, sì. La foglia dell'operaio, sì. Poi autori come Straforello, Lessona, sì. Che erano nati dall'esempio dell'inglese Samuel Miles, sì. Tradotto ed ebbe più di 30 edizioni. A Firenze la casa editrice Barbera, tra l'altro c'è uno studio di un anno fa di Baglioni, sì, che ha usato questo materiale. Sì. Benissimo, allora grazie ancora al relatore.